parlo con la zanzara. Ciao, belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani. Che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa. No, niente male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dai, che ce la fai. Tenace, stringi i denti e non mollare. Dai, che ce la fai, se veramente vuoi quello che vuoi. Caro Parenzo, siamo qui, la zanzara è iniziata, la corsa dei candidati 5 stelle verso l'Europa. Visto, visto tutto. Aspetta. Gente incredibile, comunque. Chi sta cantando questa canzone, sì, che sì, voi, popolo della radio, state ascoltando molto, molto attentamente, vi chiederete perché questo pazzo, questi due coglioni stanno mandando in onda codesto brano? Vorrebbe abbandonare la... Cari amici, la cantante si chiama Banda Montanelli. Cantante. Cantautrice. È stata con l'Italia dei Valori fino al 2006. Adesso si è candidata alle europee con Grillo. Che ce la fai? Tenace, stringi i denti e non mollare. Difficile che ce la faccia, eh? Già è stata esclusa da una prima selezione attraverso il web. Senti invece chi ce l'ha fatta e sicuramente sarà candidato 5 Stelle. Ripeto, candidato 5 Stelle al Parlamento Europeo. Poi bisogna prendere i voti, ovviamente, no? Se veramente vuoi quello che vuoi, dai, che ce la fai. Allora, questa signora si chiama Eleonora Evi. Eleonora Evi. Senti, qual è la sua filosofia? Il suo programma di governo. Beh, di governo, lasciamo perdere governo. Comunque, insomma, lei dice: sentite, sentite, che cos'è che devono andare insieme? Cos'è che devono andare a braccetto? Credo anche però, da designer, essendo una designer, che design e politica dovrebbero poter lavorare insieme per trovare queste soluzioni, per risolvere questi problemi. Il Movimento 5 Stelle ha portato avanti da sempre delle battaglie che si inseriscono in questo scenario, in cui il design ha un grande ruolo. Lo lascia al nido quando è necessario. Remora sei e forza per lottare. Cioè, avete capito bene, secondo questa signora che si chiama Evi, design e politica devono lavorare insieme. Design e questa farà la designer, non so che cosa, sì. Però tu mi spieghi, sì, il collegamento tra design, no, e politica? È impossibile, no, perché poi sembra che io ce l'abbia con quella del Movimento 5 Stelle. È per me impossibile, impossibile. Sono troppo stupido per poter capire. Mi viene poi la voce di Brunetta anche. È impossibile. Sentila per me di nuovo, capire. Sentila di nuovo, sentila ad impossibili anemo. Tenetur. Sentila di nuovo. Non so, parla di car sharing. Solo in questo campo, ma anche in altri campi, può riuscire a mettere in atto delle risorse per il cambiamento. Ad esempio, perché possedere un oggetto quando è possibile spesso magari prenderlo in prestito o usufruire di un servizio? Il car sharing, ad esempio, è un servizio. È un servizio progettato con criteri di design. Beh, siamo al top, eh? No, car sharing, no, come programma politico. A parte che l'hanno già fatto, comunque. Allora, questa signora, detto con tutto il rispetto, è quella che ha preso più voti in assoluto. Ma tra di quanti, però? 500, credo. Ecco, appunto. Dai, vabbè, dai 500. La dimensione delle cose. Vabbè, altri sono messi in lista. Tu avrai a casa, altri ne hanno presi 20, 35. Tu avrai nella tua vita. No, ma su questo non ti seguo su questo. 30 amici li avrai tu. Sì, 40. Ma non ti seguo su questo. Non ti seguo su questo. No, perché poi tanto questi devono prendere le preferenze. Sì, per ma cui... ci sono alcuni di questi qui che hanno preso 30 voti. Nel web. 30 voti. 30. Che ce la fai? Ma che ce la fai? Tenace, stringi i denti e non mollare. Secondo Oliviero Toscani, secondo l'amico Oliviero Toscani, beh, gli italiani sono irrecuperabili. E lo sai perché? Oliviero ha sempre ragione. Senti, no, comunque a prescindere. Quasi per definizione. Per definizione. Siamo il paese che ha i cessi pubblici più schifosi al mondo, che strano. Noi veramente caghiamo, pisciamo fuori dal water, ma anche sulla freccia rossa in prima classe. Ma come mai? Gli italiani pisciano e cagano fuori dal water. Questo è l'esempio dell'Italia. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Arrivano l'Europa. Caccia il rom. Basta con l'euro. Ma basta anche con quei negri che girano nelle metropolitane. Salvini guarda avanti. Guarda avanti. Grande prezzo. Guarda oltre i monti. Non permettere al tiranno Bruxelles di governarti. Se trovi un rom per caso per strada, nel dubbio, fagli uno sgambetto e fallo cadere, nel dubbio. Sali Padania, fai vedere. Sali a Bruxelles e fai vedere la tua terra. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Allora, di nuovo protagonista, caro Parenzo. Sì, ecco, questo di nuovo protagonista, cioè, ha sventolato quell'uomo da circo. Comunque dai la notizia prima. Ha sventolato una spigola. Una vergogna. Una spigola alla camera. Un pesce ha portato, no, una spigola, la una spigola. Vabbè, era una spigola, te lo dico, era una spigola. Spigola, una specifica. No, è lo stesso, no, è importante. Perché la spigola, no, cioè, è più cara. Non è un merluzzo, è la spigola. La sventolata, non c'era la Boldrini, purtroppo non c'era la sventolata lì. E l'hanno sbattuto fuori, per fortuna, definitivamente. Sì, non capisco, però l'ha sbattuto fuori Di Maio, che protesta sempre. Bene, no, ma protesta stelle, sempre quando i 5 Stelle fanno le chiassate. Ma lì è nella funzione di Presidente. Beh, ho capito, però poi non devi rompere le palle quando cacciano i tuoi. Però bravo Di Maio 5 Stelle, bravo, questa volta sì. Vabbè, sentiamo quello che ha detto. Buon anno, good asshole. Buon anno, prego. Grazie, signor Presidente. Guardi, io guardando l'orologio ho visto che oggi è il primo di aprile e mi è venuto in mente che poteva essere uno scherzo questa discussione con quello che il governo ci propone, con quello che la maggioranza vuole fare. E ancor di più ieri, quando ho sentito la Presidente della Camera fare certe affermazioni in difesa dei clandestini rispetto a chi va negli alberghi a 5 stelle. Allora noi non pensiamo ai nostri pensionati che magari mangiano acciughe, non pensiamo ai nostri pensionati che magari per andare avanti mangiano sardine. Allora io ho pensato che sia giusto, qua c'è una spigola. No, collega, rimuova quella spigola, chiedo ai commessi di intervenire, la richiamo formalmente. La richiamo formalmente. Agli altri, collega Buonanno, abbassi. Ai nostri disoccupati. Collega Buonanno, la richiamo per la seconda. Il governo si deve. Collega Buonanno, lei è espulso dall'aula. Allontanate il collega Buonanno dall'aula. Forza, forza. Allontanate il collega Buonanno dall'aula. Ammazza che piglio, che piglio. Bravo, Di Maio. Bravo Di Maio. No, ma scusa, bravo. Ma andrebbe cavolo. Denunciato per molestia con fondi di animali. Chi? No, quello la era spigola? Un pesce che non avrà comprato a una pescheria fuori dall'aria. No, là, ha molestato un animale. Ma no, ma perché dai, nelle sue mani un animale assume, viene molestato. Io fossi nella Lega Protezione Animale, non so. Faresti una protesta. Ma sì, ma comunque io stavo dicendo un'altra cosa. È il circo ormai. Stavo dicendo un'altra cosa. Di Maio, però a questo punto non deve più rompere le scatole quando vengono cacciati i grillini dall'aula, per intemperanze. Beh, non rompa più le scatole. Ha svolto bene il suo ruolo. Fermo, abbiamo con noi però, abbiamo con noi il fondatore della comunità Exodus, Don Antonio Mazzi, buonasera. Ciao, buonasera. Come ciao, stai? Antonio. Come stai? Io sto bene, sto tranquillo, sono qui che lavoro con i miei ragazzi e sto bene. Grande forma o no? Grande forma, 84 anni, che forma devo avere? Che quasi vuol dire? L'età di Berlusconi, a 84 anni, magari arrivarci alla tua età, con quella testa, con quel fisico, no? O no? Ah sì, ben con quella testa, sai, qualcuno dice che ce l'ho giusto e qualcuno un po' meno, ma comunque. Vabbè, dai, anche ho sentito l'altra volta qui alla Zanzara un prete, un altro, lo conosci, un tale Don Farinella che ti dava del rincoglionito, vabbè, comunque. Non si può andare d'accordo con tutti, no? Ad una certa età ricoglioniti un po' si è. L'importante è non essere ricoglioniti a 50 anni, ecco, perché mi pare che in giro c'è qualcuno. Quello è vero, cioè meglio essere rincoglioniti a 84, tu dici, che a 50. Per esempio, per te il prototipo del rincoglionito di 50enne chi è? Ma sai... In Parlamento ce ne sono tanti di rincoglioniti, diciamo. Sì, io faccio fatica a fare i nomi perché lì si potrebbe con una gran, un gran badile e un po' di piccone bisogna mandarne fuori almeno metà. Come col badile? Sì, badile e piccone. Beh, tu dici, eh? Eccessivo. Sì, non posso, non posso citare altri strumenti di lavoro, se no mi dicono che faccio il comunista, capito? No, ma bel che comunista? Bel badile, la cariola e fuori metalli. E via metà di quelli. E via. Beh, comunque, questo Renzi che vuole cambiare le cose, per esempio vuole fare fuori il Senato, ti piace? Lo voteresti uno come Renzi? Come lo voteresti? L'ho votato, io sono amico di Renzi da sempre, ancora... Ce l'hai votato alle primarie, dici? Quando aveva i pantaloncini di scout, quando era i primi giorni che era presidente della provincia di Firenze. Di Firenze. Quindi. Dunque, l'hai sempre votato, l'hai votato alle primarie, quando c'è stata l'occasione l'hai votato? No, io non voto primarie, io voto quando è ora di votare le primarie. Quando l'hai votato, scusa? Dunque, quando l'hai votato? L'ho votato, nel senso che l'ho sempre apprezzato. Sono stato giù a parlare quando lui ha fatto i primi incontri a Firenze. E c'è una testimonianza mia. Cioè, ci può salvare solo lui, secondo te? No, non è che si può salvare quello solo lui. Il Padre Eterno ci può salvare. Io credo che bisogna leggere e vedere la politica in maniera diversa, appunto, e avere il coraggio di smontare alcuni luoghi che sacri non sono. E ora che sia finita, cioè, secondo me, poi no, beh, certo. Ma tu, quando ci saranno le elezioni politiche, Renzi lo voteresti proprio spiegate, come dire? No, lo voteresti, lo voto, punto. Lo voti, sì, vabbè, lo voti. Perché io dicevo così, un condizionale, tu invece mi dai la certezza, lo voti, punto. Se accadrà, lo voto. Se accadrà, senti, ma secondo te assomiglia un po' al Berlusca? Ma dal punto di vista della capacità di comunicare, della capacità di comunicare direttamente, di parlare direttamente con la gente, con un linguaggio semplice e molto popolare, certamente assomiglia in questo senso. Assomiglia. È un grande comunicatore, c'è poco da fare. Questo ormai lo sanno tutti, assomiglia in questo. Ma anche questo piglio un po' autoritario, questo piglio decisionista, ecco, come dice Parenzo, ogni tanto ne dice una giusta. Questo piglio decisionista. Hai un capito po'... che pazienza, Don Antonio. Più che decisionista, secondo me, è un bel fiorentino, è il carattere dei fiorentini quello lì. Spero che lo mantenga. Che cosa c'è di diverso da Berlusconi? Vabbè, innanzitutto è circondato, ci stanno meno donne intorno, diciamo la verità, no, per adesso. Al di là di meno donne, è che intanto ha 40 anni di meno. Questo si sa. Va bene. E poi, secondo me, è ancora fresco. Ha ancora quella verginità, va bene, secondo me, quella verginità politica che gli permette di fare alcune cose che Berlusconi non può più fare. Sì. Né Berlusconi da una parte né Bersani dall'altra, ecco. Comunque sai che Tommazzi da questo punto di vista dice una cosa meglio di un analista politico, caro Parenzi. Senta una cosa, Tommazzi, ma Berlusconi, adesso torniamo alla famosa questione sollevata dei servizi sociali. Ma viene lì o no? Ma lasciamo perdere, però, tutto quello che è stato detto lasciamolo da parte. Non abbassiamo la qualità dell'incontro. No, dai. Io una domanda gliela devo fare. Il 10 aprile, lei si augura che Berlusconi abbia i servizi sociali o che vada ai domiciliari? Almeno questo. Io preferirei i servizi sociali. Preferirebbe i servizi sociali? Se li merita, secondo lei, i servizi sociali? No, se li merita. Io non so cosa si meriti Berlusconi, non tocca mica a me, tocca alla giustizia. Vabbè, secondo lei. Farà bene questo. Potrebbe essere un'esperienza interessante per lui e per gli altri. Per lui e per gli altri. Ma sa che uno si deve ravvedere, no? Per avere i servizi sociali. Secondo me potrebbe farli bene da questo punto di vista. Cioè, sarebbe un'esperienza, diciamo, no, di redenzione. Potrebbe essere questo per Berlusconi? Ma sai, parlare di redenzione è un parolone così grosso, sai, che credo che non spetti a me. Io credo comunque che permetterebbe a lui una parentesi positiva, serena, va bene, che lo tira fuori da tutta una serie di cose e lo farebbe riflettere. Io credo che Berlusca abbia delle qualità dentro che neanche lui sa di averle. Ah, e questo qua è interessante, cioè i servizi sociali potrebbero tirarli fuori delle qualità che lui nemmeno conosce. Ma tu sai che io ho avuto e ho personaggi qui che fanno lavoro da me. Lo so, l'Ele Mora. Devo dirvi che questi periodi, è il periodo nel quale fanno queste cose, serve. Ma dimmi una cosa, ti farebbe piacere averlo comunque? No, ti farebbe piacere avere Berlusconi? sono abbastanza rompipalle io, averne un altro come lui. Non possiamo essere due nel pollaio, hai capito? Cioè, dici... Ma anche perché si mette lì a governare, poi comincia poi si a mette dire lì... allora, caro Antonio, si adesso... Ma dici come? Sei tu che... si mette lì a... Antonio... Si mette lì a dire quello che bisogna fare. Sì, secondo me da... siamo due galli, va bene, lui certamente va bene con una... Reviviamo un po' qui con un po' di ragazze. Io sì, no, meglio che ognuno nel suo pollaio. Un attimo solo che c'è il traffico, torno subito, Don Mazzi, fondatore comunità Exodus, alla Zanzara. Danzano come zanzare. Non vi abbandonerò mai. Beh, oggi sono stato a pranzo col maestro, col direttore, caro Parenzo. Con Fede? Beh, sì, grande pranzo, pagato lui ovviamente. Beh, certo. Pagato lui. Voglio farti sentire, insieme a Don Mazzi, sì, questo personaggio incredibile che Berlusconi ha promosso come coordinatore di Forza Italia in Sicilia. Cioè, una persona no, che ha un ruolo importante, perché è il coordinatore di uno dei bacini elettorali più importanti storicamente per Forza Italia. Il signore che noi abbiamo ospitato qui a Zanzara... Plenipotenziario assoluto. E uno potrebbe dire mica cazzi, no? Micichè. Beh, in questo caso. C'è invece un signore che si chiama Gibino. Che già uno dice perché uno deve avere due I, Gibino. Beh, vabbè, questo però non è colpa sua. Che è uno che è presidente dei Ferrari Club d'Italia, è uno che ama molto le Ferrari, anche questo, vabbè. L'abbiamo anche intervistato, sì, purtroppo per noi, perché... Vabbè, Gibino. Lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso. Il quale Gibino dice... Le dentiere, no, senti questa cosa. Che tu un sai notaio, che... mi pare, se lo ricordo. No, non lo so, ma non mi interessa. Adesso non allungare la minestra. Senti questa cosa. L'assenza di una dentiera, quindi la possibilità di avere denti, porta poi di fatto a una masticazione non corretta e a una digeribilità dei cibi sbagliata. Abbiamo affrontato i temi con tutte le federazioni e questo porta poi dei problemi clinici per gli esseri umani. E dunque, consulenza per gli anziani per dare le dentiere. Don Mazzi, anche lei ha bisogno di una dentiera da Berlusconi? Eh beh, una dentiera, sono appena stato al dentista stamattina, quindi sai, sono ancora qua che mi fa male i denti, per cui... Ma ha sentito Berlusconi che vuole fare cani, dentiere, aprire un club Forza Silvio dove ci sono tutti questi consulenzi che danno una mano alle persone? Vabbè... ragazzi. Se vuoi farlo, può farlo, io non ho tempo di aprire né dentrifici e nemmeno asili per cani. No, io, cioè, per carità, per cioè carità. Le mie 40 strutture, sono 30 anni che ho fondato Exodus, lo sai, 30 certo, anni. Certo. Parco Lambro, quindi... Ha aiutato tutti, ex terroristi. Ho cercato di aiutare tutti. Sì, senta, ma Berlusconi, secondo lei è un peccatore? Ma i peccatori, sa, sì, beh. Sarà un peccatore. Ce ne sono dei più grossi. Ce ne sono di più grossi, sì, di Berlusconi. Anche perché questo, i peccati li dice, i grossi peccatori i peccati li fanno e non li dicono. Beh, Berlusconi li dice, non è che li dice. Beh, insomma, ne dice alcuni via adesso. Beh, certo. Può pretendere che faccia l'indulgenza plenaria, c'è ancora tempo. Ma gli faresti la comunione? La comunione gliela faresti al Berlusconi? Ma io vorrei prima vederlo e parlare, poi non ho grosse preclusioni, però vorrei prima vederlo e parlarmici. Per vedere se si è pentito un po'. Così, chiacchierare di che cosa, insomma, tu sai che i preti che mestieri fanno. Chiacchierano. Ecco, ma che cosa saresti curioso di chiedergli? Chiacchierano, via. Cosa saresti curioso di chiedergli, Antonio? Ecco, Don Antonio? Sì. Niente, a me quando parlo con la gente, mi interessa che dentro ci sia un minimo di capacità di criticare gli sbagli che facciamo e la voglia di cambiare. Ecco, questo è quello che io... Cioè, vorresti parlarci per capire se è cambiato, se si è pentito. Vorrei parlarne insieme, io sono curioso. Se si è pentito curioso di alcune cose che ha fatto. Sono curioso, tutto, va bene. Senti, ma facciamo... Tutto, che mi dica anche che non è pentito, ma sono curioso. A me la storia della gente, mi piacciono tutte. Certo, tutte. Certo. Senti, Don Antonio, vogliamo fare però un piccolissimo appello ai giudici di non mandarlo agli arresti domiciliari, sì, ma di mandarlo a... Perché è importante, come ha detto lei. Sarebbe importante. Ai servizi sociali. A me piacerebbe il servizio sociale, non so i giudici cosa faranno, ma secondo me li farebbe meglio, ecco, li farebbe bene. Pertanto io conosco le storie di questa gente. Dunque facciamo un piccolo appello ai giudici. Cari giudici, dategli i servizi sociali, così almeno c'è la possibilità. Utile. Sono molto più utili dei domiciliari, o no? Secondo me sì. Però appunto io sono un poveretto, sono nessuno. Senti una cosa, tu invece cosa faresti a chi a quelli che sono accusati di prostituzione minorile, che vorrebbero patteggiare con 40.000 euro, pare che la procura poi non gli conceda nulla? Cioè, secondo te è una vergogna questa roba qua? Questa è una porcata. Vabbè, purtroppo è legale questa roba. Beh, pare di sì. Sono disposto a perdonare quasi tutto, ma queste robe qua io non le perdonerei. E che cosa, secondo te, che cosa meriterebbero queste persone che vanno, compreso il marito della Mussolini che tu conosci? In galera pure del intanto che sia chiaro che cosa hanno fatto, nome, cognome, non c'è. Qui bisogna dire le cose. Sì, pubblicare nomi e cognomi. Chiaro nome e cognome, poi che facciano diciamo un'attività che chiaramente con l'effetto di cambiare la testa, ma soprattutto di far capire agli italiani che queste sono puttanate. E che cosa devono fare secondo te? E sono porcate autentiche. Anche loro andare a fare dei servizi sociali, fare qualche cosa di utile, però vanno veramente bastonati, non è possibile. Cioè pubblicare non sulla pubblica. E mi pare che ci sia un'inchiesta fatta tempo fa. Sì. Che l'opinione italiana ci sia un 38% di persone che su queste cose lasciano correre. Non so se sia vero o no, ma questa veramente mi fa male. Ma tu per alcuni reati la pena di morte la metteresti? La pena di morte no, ma non perdono. Non perdoni. Non perdono. Senti, ti ha stupito vedere, che ne so, il marito della Mussolini, una storia drammatica, eccetera, coinvolto in queste cose? Ma insomma, mi ha stupito. Fino a un certo punto. Certamente mi dispiace che succedano queste cose, mi dispiace che professionisti, fior di professionisti, queste cose le facciano. Senti, che vuoi dire a Saviano che vuole legalizzare le droghe leggere? Dico, ho sempre detto di no e continuo a dire di no. La droga è un capriccio, come tutti i capricci dico di no, punto. E perché Saviano insiste secondo te? Ognuno è libero di dire quello che pensa, va bene? Come io sono libero di dire di no. No, beh, certo. Spero che me lo lasciano dire. E lui ha le 99. A parte che secondo me deve capire buon Saviano che non è legalizzando le droghe leggere che fermiamo gli interessi spaventosi del mondo della mafia. Ma come mai insiste adesso su questo tema, secondo te? Non lo so. Non l'ho approfondito. Invece non perdo tempo a approfondire queste cose, perché io la mia testa non mi lascio cambiare la testa. Poi di Saviano tu hai detto pure che ti fa pena addirittura per certi aspetti. Sì. Senti, ma invece le prostitute, vabbè, ti richiamiamo dopo casomai, 800 24 00 24, perché sono interessato a capire quello che pensi della legalizzazione delle prostitute. Prostituzione, anzi. D'accordo! Ma guardate che lo fanno anche in Germania, E ancora a casa. Vorrei dire una piccola cosa, caro David, una piccolissima cosa. Ti sto vedendo con la maglietta di Razzi. Beh, certo, maglietta di Razzi sempre, primo piano. Ma ogni giorno ce l'hai. Ogni giorno una diversa. Ah, ne ho perché tre. La stessa, tu poi sudi. No, questa addirittura extra, io non sudo. Questa addirittura extra large. Extra large. Allora, devo dire una cosa, in sostegno di tutti quei produttori, tutti quei commercianti, anzi, di sigarette elettroniche che potrebbero essere investiti, se qualcosa non cambierà, da una tassa micidiale del 58%, 58 e passa per cento, ripeto, 58 e passa per cento, perché c'è una guerra spaventosa nei confronti della sigaretta elettronica. È una vergogna. Tra le lobby sicuramente. Beh, sì, e poi dallo Stato che vuole raccattare quattrini. Allora, siccome c'è un'attività economica che funziona, e tra l'altro porta anche vantaggi di salute evidenti ai cittadini, l'ha spiegato anche il professor Veronesi, eccetera, eccetera. Vabbè. Siccome hanno aperto in Italia diverse centinaia di attività, tutto questo sembra una cosa incredibile. Negozi che aprono, attività che fioriscono, gente che può investire. E allora lo Stato cosa pensa? Siccome deve raccattare un po' di quattrini, siccome c'è qualche lobby che insiste, ma è legittimo che insista qualche lobby, allora che cosa si decide di fare? Zac! 58% di tasse passa. Così la gente non chiude i negozi, le attività vanno a ramengo, eccetera. tu capisci lo scandalo, no? Che si debba discutere di queste puttanate. No, ma io sarei, beh, no, puttana, dove, dai, dove su, raccimolare, no, di queste puttanate. Dove raccimolare soldi non sono mai, non è mai, cioè, un, no, tema, tu stupido. Sei a favore dell'aumento, io di queste tasse? Io sono perché si aumentino, e sono un fumatore, cioè, le siamo, tasse, tu sei a favore sulle che... scusami, sono perché si aumentino le tasse sulle sigarette, e io sono un fumatore, come tu ben sai, sono un fumatore, quindi è giusto che io, ma paghi di più, bisogna aumentare le sigarette, proprio le tasse, e anche, cioè... quelle di questa attività delle cosiddette... Vabbè, abbiamo scoperto, signori miei, David Parenzo, Filippo, no, no, Facci, sei all'ascolto? Momento, è a favore dell'aumento. Filippo Facci, sei all'ascolto? Sigarette e anche queste. No, non mi interessa. Dunque, David Parenzo è a favore dell'aumento delle tasse sulle sigarette elettroniche. Ma Squinzi, anche Squinzi, su quelle stai ascoltando? Squinzi, stai ascoltando? Squinzi. Uomini di. No, perché poi ti spiegherò. Uomini di Squinzi, sei all'ascolto? Parenzo è a favore. Ma come li tra. Cosa vuol dire uomini di Squinzi? Vabbè, ma le persone, ognuno ha intorno a sé la sua, i suoi, beh, uomini, no? Uomini di Squinzi, ma i minacci. Cosa fai, uomo? Allora, l'altra cosa incredibile che voglio dirvi no, l'altra cosa incredibile è molto interessante. Tu sai che Rodotà e altri, quelli che io Rodotà. E altri tromboni, e altri tromboni, vabbè, questo, tromboni costituzionalisti, eccetera. Cosa ma vogliono fare? Ma tu sai fare? Scrivere il nome Zagre Belski senza guardare come è scritto, ad esempio? Beh, certo, con tu la Y finale. Sì, sì, Belski, sì, sì, perché ci ha rotto i cabasisi da anni, dunque ormai è ultra conosciuto. Come? Allora, no, aspetta. Allora, ti dico, Zagre Belski, Rodotà, eccetera, eccetera, vogliono, dicono, gridano allo scandalo per la questione delle riforme proposte da Renzi, no? L'abolizione del Senato, e dicono che c'è un pericolo autoritarismo, professionisti della lo dicevano firma con Berlusconi, adesso lo dicono anche con Renzi. Il signor Rodotà nel 1985, indovina che cosa proponeva nell'85? L'abolizione del Senato, sicuro. Il monocameralismo perfetto. Sì, sì. Il monocameralismo perfetto, monocameralismo puro. Vabbè, ragazzi, non ne posso più, come diceva Grillo in quella cosa, Rodotà non ce la Rodotà faccio più, come diceva Vasco Rossi, non ce la faccio più, dai, non ce la faccio più. TG3, ma guardate che lo fanno anche in Germania, beh, non so che fanno, certo, in Germania, comunque in Germania TG3 non lo so se c'è. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3, e ascoltate cosa deve dire. La disoccupazione vola al 13%, mai così alta dal 77, persi 1000 posti al giorno, tra i giovani senza lavoro il 42%. Padoan all'Eurogruppo, il taglio del cuneo è una riforma strutturale perché basato sui tagli permanenti della spesa. C'è bisogno di più tempo per ridurre il debito. Renzi a Londra, sul lavoro serve più flessibilità, disoccupazione dati sconvolgenti, con Cameron uniti contro la burocrazia. Forza Italia sulla riforma del Senato, così non ci convince, un pasticcio, chiediamo il rispetto dei patti. Al TG3 il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, il nuovo premier francese Emmanuel Valls in sedia a Palazzo Matignon, dice governare è scegliere, ma il fronte della sinistra non gli voterà la fiducia. Napolitano firma con estremo rammarico la proroga di un anno degli ospedali psichiatrici giudiziari che dovevano chiudere ieri. Al TG3 a Castiglione delle Stiviere, l'inchiesta sulla prostituzione minorile di Roma, i clienti cercano lo sconto di pena a 40.000 euro per evitare il processo ed è polemica, la procura nessun patteggiamento. Corri ragazzo laggiù, vola tra lampidi blu, corri d'aiuto di tutta la gente dell'umanità. Tu ragazzi, che sei una Boskin. Fra poco aprirò un oggetto, fra pochi minuti, aprirò un oggetto perché avremo un ospite eccezionale che ci spiegherà verso le 19:40-19:45, ci spiegherà esattamente come funziona la legge sulla legalizzazione della prostituzione, sulla riapertura dei bordelli. Ah, molto bene. Ce lo spiegherà in maniera dettagliata, anche quando si rompe il preservativo. Con le ecco, sue parole. Ce l'ho in mano qui, un preservativo di quelli... di quelli fortissimi, prodotti in Germania, perché in Germania? In Germania lo fanno. E in Germania fanno preservativi di altissima qualità. Ma chi è? Anche in Italia in realtà, però. D'accordo? Beh, non lo so, adesso d'accordo. D'accordo! No, è più acuto, d'accordo! D'accordo! Abbiamo d'accordo! Pazzi! partita proprio. Dai, non mi farà ridere, stavo dicendo una cosa. Una cattiveria. Allora, innanzitutto abbiamo l'ex capogruppo al Senato dei Five Stars, Vito Crimi, il quale... Che girano, ruotano loro, capito? Sì, ruotano, ma non si capisce più la mazza. Chi è il capogruppo dei 5 Stelle al Senato, secondo te? Ruotano, non è importante chi è. Come non è importante? Ma sono è Anonymous. È il 5 Stelle, non è chi è. Non ma è no, ma ci deve essere un nome, Grillo, ma non c'è scusi. Un nome, cretino, ma può essere anche una mozzarella. Ma no, ma scusi. Non c'entra niente. Ma come non c'entra niente? No, ma lo fanno ovunque, ovunque. Ma non è vero, in altre persone... In Svezia lo fanno. No, no, non c'è cazzo di capogruppo. Ma non è vero. Può ci sono chiunque. I capigruppi da... ma che stanno là 2 anni, 3 anni. È roba vecchia, morta. Ma su. Sepolta. Ma Grillo, non scusi. Conta. Ma scusi, Grillo, perché... Si estrae a sonte. Ma lei lo sa che... Lei lo sa chi è il suo capogruppo al Senato? Ma non me ne frega un cazzo, cos'è il Senato? Ma lei lo sa chi è il capogruppo al Ora Senato o no? Mi nostro. Ma sei a casa lei, ma non lo so neanche chi è stato eletto io, ho deciso la rete. Io non conto. Vabbè no, Grillo, contano su. Contano il popolo del web, della rete. Un click, lo vuoi, il capogruppo nuovo, girano, ruotano. Ma come ruotano? Che è moderno, dire? È tutto vecchio lì. Sempre lo stesso, che speranza, ma quale speranza? Ma speranza è ma capogruppo chi è alla camera. Fede, speranza e carità, quella. Ma dai. Ma cosa dici? Ma su, Grillo, dai. Gente morta. Uno che si chiama, uno ad esempio come si chiama? Chiama quello lì, quello di Forza Italia, chi è? Quel capogruppo Brunetta, con dei nomi Brunetta alla camera, ma cioè... quale? Ma è uomo o donna? Ma cos'è? Ma no, ma Brunetta è il cognome. Ma di chi? Cognome di co? Di gente finita. Aspetta, allora c'è Crimi, il ma suo chi ex. È il suo ex capogruppo, quello allora, là. Allora è bravo, Crimi, che sta gente. Che ha cantato Gig Robò dai nostri amici di Radio Rock a Roma. Vito Crimi del Movimento 5 Stelle canta Corri ragazzo laggiù, vola tra la nube blu. Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Corri e va, e la gente corri e va tra le stelle tu che puoi diventare Complimenti. Gimba. Eccolo. Cuore acciaio, Gimba. Cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Una nemica civiltà. Oh ragazzi, se siete la mattina a Roma in radio, Radio Rock, una puntatina fatela sempre. Di tutta la gente dell'umanità. Sallusti, a proposito di Zagrebeschi, Sallusti dice Zagrebeschi è il cancro del paese. No, sì, ma non si sì. Può. Ma guarda, non ho detto niente di particolare. Ma come non hai detto niente di particolare? Ma come? Sallusti, ma è una merda. Ma Sallusti, lei ha detto che è un cancro del paese. Cancro e metastasi, bisogna aggiungere. Ma come metastasi? Niente, ma niente di particolare abbiamo detto. Ma state preparando un'inchiesta su Zagrebeschi? Un'inchiesta enorme, prima il documento, una merda assoluta. Ma non stiamo dicendo nulla di offensivo, credo. Ma come merda assoluta? No, cancro no, del paese, metastasi. Ma c'è, beh, abbiamo ancora scritto poco, scriviamo ancora molto. Vabbè, sentiamo. Gli intellettuali alla Zagrebeschi sono veramente stati il cancro di questo paese, anche perché se davvero come pensano sono i padri della patria, beh, hanno partorito una figlia non particolarmente in gamba. No? L'aiuto di tutta la gente dell'umanità. Come non essere d'accordo con Sgarbone che dice eliminare il Senato è una puttanata. In realtà lui dice che bisogna mantenere il Senato così com'è. Io dico solo una cosa, e ha ragione anche Travaglio questa mattina sul Fatto Quotidiano quando dice che far decidere alcune cose, alcuni passaggi costituzionali, alcune leggi sulle autonomie e altro ancora al nuovo Senato, quando ci sarà e se ci sarà, è una puttanata colossale. Ma no? Ma è sì, è una puttanata. Però, no, non è disfattismo, perché basta con questa cosa che Renzi dice che sono gufi e rosiconi quelli che non approvano le cose. C'è gente che pensa col proprio cervello e pensa che questa riforma del Senato è una puttanata. Beh, però in realtà io sono per abbassare la saracinesca. Elimina elimina la staffetta tra delle quello leggi va tra bene, Camera e Senato. Quello questo va bene, lo fa, il resto rischia di costa. Complicare. No, può essere che complichi, il resto ma non rischia costa. Di complicare tutto. Comunque non il resto costa. Rischia di complicare. Poi scusa, questi sindaci, insomma, questi sindaci a costo zero. Aspetta, quest'anzi. Aspetta, questi sindaci bisogna vedere quello, ma questi sindaci, ma che devono fare? Devono essere sostituti delle province. con le funzioni delle province. Devono andare a fare i senatori ogni tanto. Ma le città quando le amministrano? Beh, vabbè, dai, su, già vanno all'ANCI, già hanno luoghi. Fammi sentire Vittorio, tu sei veramente ormai allineato al Partito Democratico, no, in particolare tutt'altro. A Renzi, allineato. No, no. Tu sei passato da Bersani a Renzi. Sei no, tu la vera vergogna. Cioè, tu sei salito veramente sul carro. Ma intanto mi stai dicendo da Bersani a Renzi come fosse una cosca criminale. No, no, no, fammi sentire Sgarbone, però fammi sentire Comunque Sgarbone. Non è vero che sono. No, no, no, no. Insomma. Uno fuori un Zagrebelsky, cioè, guarda che una stronzata come eliminare il Senato e renderlo nominato quando è già nominato perché è pieno di delinquenti non eletti, è una puttanata. L'avesse detta Berlusconi l'avrebbero coperto di insulti. La dice la vera destra di Renzi e diventa giusto, eliminiamo il Senato che costa. E non costa di più la consulta, non l'abbiamo visto. Ma cosa elimina il Senato? Il cervello della consulta eliminare. Non si può eliminare. Ma... dalla terra nascerà. Cornute che non sono altri, questi sono dei cornuti. Adesso fai ridere. Le zanzare, yeah, fanno male. Tocchi la trasmissione è sempre la migliore. Porta se il tuo sangue rosso blu. Ma protagonista di oggi, caro Parenzo, tuo malgrado, è tornato ad essere l'onorevole Buonanno. Pensavo volessi ricordare il grande storico Jacques Le Goff. No, non me ne fotte nulla. Nulla, 90 zero. 90 anni di Scalfari. Non me ne frega. Chi? 90 anni di? Di Eugenio Scalfari. Di Eugenio Scalfari. Bene. Io lunedì prossimo parteciperò bene. Al teatro a Roma sì. per festeggiare. Sì, ecco, meno male che lo dice anche con quella voce e quasi faremo, da. Quasi faremo una grande alzo. Diretta della sì. Zanzara. Certo, perché non c'è la dubbio. Cosa sarà. Sì, sì, sì. Sarà. Ecco, volevo proprio cogliere l'occasione sì. per questo. Allora, lunedì prossimo. Mandatemi buon anno intanto. Ho già fatto l'accredito. I 90 non anni. Capisci un cazzo. Mandatemi buon anno. Grazie. I 90 anni di Eugenio buon anno Scalfari. Alla camera oggi che agita una spigola. Buon anno, prego. Grazie signor Presidente. Guardi, io guardando l'orologio ho visto che oggi è il primo di aprile e mi è venuto in mente che poteva essere uno scherzo questa discussione con quello che il governo ci propone, con quello che la maggioranza vuole fare. E ancor di più ieri quando ho sentito la Presidente della Camera fare certe affermazioni in difesa dei clandestini rispetto a chi va negli alberghi a 5 stelle. Allora noi non pensiamo ai nostri pensionati che magari mangiano acciughe, non pensiamo ai nostri pensionati che magari per andare avanti mangiano sardine. Allora io ho pensato... che sia giusto, qua c'è una spigola. No, collega, rimuova spigola quella spigola. Chiedo ai commessi questo di intervenire. La richiamo formalmente. La richiamo formalmente. Agli altri, collega agli Buonanno, abbassi. Ai nostri disoccupati. Abbassi. Collega Buonanno, la richiamo per la seconda. Il governo si deve. Collega Buonanno, lei è espulso dall'aula. Allontanate il collega Buonanno dall'aula. Forza, forza. Allontanate il collega Buonanno dall'aula. Siamo il paese che ha i cessi pubblici più schifosi al mondo, eh? Che strano. Noi veramente caliamo, pisciamo fuori dal water, ma anche sulla freccia rossa in prima classe. Ma come mai? Gli italiani pisciano e cagano fuori dal water. Questo è l'esempio dell'Italia. Questo è un paese corrotto. Lei l'ha definito un paese corrotto, corruttibile e corruttore. È corruttore, è logico, perché ogni italiano è un po' un corruttore. Vai là, compro la bicicletta, vai a nome mio e ti fanno lo sconto. Questa è corruzione. Quindi c'è bisogno di una rivoluzione culturale in primis. Una vera rivoluzione, col sangue, non l'abbiamo avuta. Io penso che ci manca questo spirito di sovversione, di rimettere in discussione tutti i giorni le cose. E a proposito delle puttanate dette dalla Boldrini recentemente, abbiamo in esclusiva un piccolo pezzo di jazz di questa sera. Dove, in grande esclusiva la Zanzara, dove avrete una nuova Boldrini imitata da Paolo Cessisoglu, con l'apporto naturalmente alla collaborazione fattiva e imprescindibile di Luca Bizzarri. Eccola qui, la nuova Boldrini. Prima del morto. discorso di guardi, che questo paese sia alla rovina, sì, se vince dagli spot pubblicitari in TV. Pure agli spot pubblicitari. Non si può concepire come normale uno spot in cui i bambini, il papà, sono tutti seduti e chi serve a tavola? La mamma. Allora questo che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che non c'hanno la Filippina. Maria, provincia di Pordenone. Maria. Ah, Parenzo, finalmente sono riuscita a mettermi in contatto. Con chi? Io ti voglio dire. Con chi, scusi? Con te. Con Parenzo? Beh, Parenzo. Con Parenzo. No, Cruciani, Cruciani. Ah, Cruciani e Parenzo. Sì. Sono... Tutte e due. Perché non è che siete uno diverso dall'altro. Beh, insomma, adesso... Okay. Devo riprendere solo sulla storia della prostituzione. Non mi offenda, Maria. No, io non la sto offendendo, assolutamente no. Vabbè, per un'altra cosa in realtà. Comunque, vabbè, allora... Ecco, ma possibile che lei in trasmissione porta sempre politici che non hanno nessuna idea per il paese, solo di fare le case chiuse? Sono 40 anni che hanno sto cercando di fare le case chiuse. Beh, ottimo quello, no? O no? No, non è ottimo. Perché cioè, no? Hanno restato i partiti, le idee, che ci facciano vedere le idee, non attaccarsi alle puttane, sempre. No, veramente non c'è nessuno che si attacca alle puttane qui. No, ma ne fanno uno spot pubblicitario a tutte le sere con la in trasmissione a Salvini, a Razzi. E adesso vedrà tra poco, adesso vedrà tra poco. Cosa devo vedere? Più di questo non ho visto altro. Io ho visto la Lega nascere con questo sponsor. Vabbè. Non ha cambiato niente. Maria, però non urli vicino al microfono, sennò non si sente niente, si sente tutto disturbato. Allora Maria, che cos'è che non le va bene? Scusi signora Maria. Non mi va bene che i politici usano la prostituzione come sponsor di arrivare ai parlamenti. Come sponsor, no sponsor, sponsor. Sponsor. Hai ragione, ma sai, io non sono un intellettuale, sono una povera vecchia. Ma infatti mica le sto dicendo che è una criminale, stavo facendo... No, sono pure criminale quando voglio, sa? Cioè in che senso, in che senso? A rubare nei cose, nei supermercati? No, niente di che. Ma è andata qualche volta? Arrabbiare queste cose. Che cosa farebbe lei a qualche politico se lo incontrasse? Io? Li metterei a testa in giù. A testa in giù. Aspetterei che il sangue gli copre gli occhi e non vede più il mondo. Capito, Parenzo? Violenta la nonnina. C'è l'armonia che c'è nel popolo. Aspetti, stacchi un po' la bocca dal microfono. Allora, dunque, mi descrivi un po' la scena. Appesi a testa in giù, giusto? Sì, appesi a testa in giù. Poi specialmente la Lega. Salvini lo metterei a testa in giù. A Piazzale Loreto. Maroni lo metterei a pure lui, col sangue che cola, no? No, senza che cola, il sangue va alla testa, vale. E chissà che non si rigenerano. E che succede dopo? Morono, vabbè. Ma cara Maria, chissà, lei sogna ma queste... Ma perché poi lei, questa trasmissione la seguo da tanti anni? Sì. Perché chiama sempre... politici che non hanno nessuna idea o hanno un mito, idea loro, politica non ne ho sentito uno parlare. Quanti anni ha Nina lei? 64 anni. Beh, 64, sembra più anziana quasi, non si riporta bene come voce. Prego? Non si riporta bene come voce, Maria, mi sembrava più anziana addirittura. Perché sono incazzata, sono tre sere che sto a tre quarti d'ora sperando di parlarti. Vabbè, adesso che mi ha parlato? Ecco, perfetto, glielo dica. Vabbè, glielo dico, non si preoccupi, andiamo a... Ma non devono usare la prostituzione come sponsor. Sponsor, va bene, Francesco Grosseto. Francesco? Sì. Vai. Ma io volevo un attimino spezzare, per così dire, una lancia... in favore di Bonanno, anche se non approvo certo come si è comportato con la spigola di Roberto. Però non è che ha sbagliato a dire quello che penso della Boldrini, che ogni giorno viene fuori una stronzata e sugli immigrati, sugli zingari, diamo le case di qua, diamo le case di... Ma io dove lavoro? Io te la 5 Stelle con i turisti, il paragone con gli immigrati. Dove lavoro io a Livorno? Sì. C'è una famiglia, sono due anni, una famiglia italiana. che stanno in una roulotte. Vabbè, allora che, però questo, scusi, comune di Pisa, questo che c'entra? Poi a Livorno, sulla sua strada, prima di Livorno, sulla destra, nella pineta ci sono villette, non sto esagerando, villette costruite dal comune rosso di Pisa per gli zingari. Le hanno messe nelle villette nella pineta demaniale di Pisa, sì. E questi signori, anziché andarci ad abitare, hanno smontato tutti gli infissi, tutti i tubi di rame, se le vanno a vendere. E la gente sta nelle macchine, nelle auto, nelle roulotte. Adesso il collegamento non si può fare. Comunque quello che ha raccontato sicuramente una vergogna. Carla da Torino. Io quando uno gli dà, se è un gruppo di persone, zingaro o no che siano, vengono date delle case comunali, delle case che vengono costruite e poi vengono beccati magari a rubare il rame da qualche parte, io gli toglierei subito le case. Subito. Giusto. Carla da Torino. Buonasera Crociani. Dica. Sono Carla da Torino. Sì. Spero che quello che dico adesso riesca a chi mi sente ancora cenare questa sera, sì, e non le vada per traverso il mangiare. La signora Boldrini e tutto il resto. Io sono una signora di 70 anni. Sì, però abbassi la radio, Carla, sennò non sentiamo niente, su. Allora, aspetti, mi faccia finire. Abbasso la radio, va bene. Dai. Sono una signora di 70 anni. Sì. 5 anni fa ho chiesto la sociale. Sì. Va bene. Non so cos'è, che cazzo è la sociale, la pensione. La pensione. Mi aiutava. Sì. Mi faccia finire. Sì. Poi dopo ho perso il lavoro, 4 anni fa è andato fuori di testa, sì, mi è venuto il borderline della personalità. Ho chiesto al mio ex marito, divorziata, 200 euro al mese. Sì. Io onestamente da italiana ho denunciato all'INPS. Sì, però Carla, abbia pazienza, non è che possiamo, non possiamo fare 500 euro di pensione sociale. Vabbè, allora? Me l'hanno portata a 270 euro e vogliono 4.000 euro. Allora? Allora, io le chiedo questo. La signora Boldrini dice che gli extracomunitari sono maltrattati. Sì. Io sono stata operata di tumore. Vabbè, questo che c'entra, scusi. Ho sorpassato il tumore, sono riuscita a reagire. Adesso con 270 euro. Sì. Un figlio con il borderline della personalità. Va bene, sì. Da mantenere, suo padre se ne frega. Un dramma cosa totale. Cosa devo fare? E che ne so Mi io? Devo suicidare? Ma no, pago questo no, perché 100 euro di affitto, questo... un po' vado sotto i ponti a chiedere l'elemosina, io non gli extracomunitari. E allora cosa vuole dire la Boldrini? Cosa ne dite? Allora mi dica Crociani, qualcuno può ancora mangiare la Boldrini e sentire queste cose degli italiani? A lei dice la Boldrini, lei, devo fare io. Lei dice la Boldrini non rompa le scatole con gli extracomunitari, con gli immigrati, eccetera. Senta e ascolti queste storie, giusto? Fino a casa mia ci sono i signori di colore che stanno 3 ore al cellulare a telefonare. Io non ho neanche i soldi per telefonare al cellulare. E magari a spacciare la droga. Così. E magari a spacciare la droga, diciamolo. Oh no. Allora, no, perché la Boldrini gli dà anche i soldi. Ma adesso non è che gli dai davanti al PAM, al supermercato. Non è che gli dai i soldi la Boldrini. Cosa facciamo noi italiani? Ci suicidiamo. Io spero che la signora Boldrini senta questa telefonata e che questa sera riesca a mangiare con 270 euro al mese, pagare l'affitto, pagare la luce, il gas e sopravvivere e mantenere un figlio in quelle condizioni. Mi auguro solamente questo. Però dico solamente questo, sì. Dio paga tardi ma paga largo, cioè? Paga tutti, cioè? Prima o poi, cioè? La medaglia della vita non gira sempre bene per tutti, può anche girare male. A chi si rivolge? Venga, non dico un tumore, perché io l'ho avuto e Dio mi ha aiutato a tirarmi fuori. E che cosa allora? Però non si vive così. Non si fanno morire le italiane a 70 anni in queste condizioni pensando agli extracomunitari che arrivano in Italia e devono vivere in alberghi di 4 stelle. Caro Parenzo, hai ascoltato questo appello drammatico della signora Carla? Non mi metterai mai contro la signora Carla. No, ma io ti voglio dire una cosa. Ti voglio dire una cosa. Ma non c'entra la Boldrini. No, ti voglio dire una cosa. Però gli italiani non possono sopportare le persone che ci ascoltano. Non possono sopportare. Ma perché metti uni contro gli altri? Non possono sopportare che il presidente della Camera, che il presidente della Camera dica: Beh, noi abbiamo qui i turisti che arrivano e stanno negli alberghi a 5 stelle e invece poi accogliamo male gli extracomunitari. Ma chi se ne frega di queste cose? Chi se ne frega di questi paragoni indecenti, ridicoli? Chi... che ce ne importa a noi di queste robe qui, delle fissazioni che è in testa la Boldrini, la terza carica dello Stato, dai! La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Te lo dico da amico. fatti le cazzi tuoi. Beh, grande richiesta, caro Parenza, grandissima richiesta. Antonio Razzi, è inutile stare qui a girarci intorno, dai. E quello che è meglio di Renzo Piano al Senato. Per Antonio! Te. Sì, ciao, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, ti dico ai subito. I due amici Davide e Giuseppe, ci mancherebbe tutta la redazione. Allora, ti dico. Tutta la redazione, non esageriamo adesso. Tecnici, allora, cioè, avete una grande redazione. Allora, quella della Zanzara, certo. Chi è il direttore, intanto? Il direttore della radio, chi è, così un po' sonno, vediamo. Ma chi non lo sa che è il direttore. Insisti ancora su questa tutti, cosa. Dai. Chi è il direttore della radio 24 e del Sole? Ma non lo sa. Ma dai, aspetta, l'abbiamo già fatto. Che lo sa. Ma non gliene frega niente. Aggiornato, magari. Ma che me ne frega a me? Io conosco Giuseppe e Davide, è sufficiente. Ma già, ma certo. Allora, io dico una cosa, Intanto in Corea si sparano, te lo dico subito, si bombardano razzi che sono partiti, questo deve essere chiaro, ti sia chiaro anche a te, Antonio, comunque. Ah, fermo tutto, non ti preoccupare. Cioè, sei tu che fermerai tutto, non ho capito. Fermo tutto. Cioè, riuscirai a fermare tutto, dici? Ma sicuramente. Cioè, grazie a te, le due Coree torneranno in pace. No, non mi dire che sei sicuro di questo. Sono razzi amari. Ma, non sono sicuro, ma io ce la metto tutto. Ce la metto tutta, cioè, tutta, si dice, tutta, vabbè, sì, tutto, sì. Tutto è uguale, che cazzo è uguale, ma l'importante è che avete capito. Sì, ma quello infatti è fondamentale. Sempre. C'è un'altra cosa che volevo dirti prima di affrontare il tema clou della serata. C'è una cosina che riguarda la tua candidatura alle elezioni europee. Ma è vero che hai detto a Berlusconi: io non voglio fare il parlamentare europeo, però con Crozza sono diventato famoso, prendo un sacco di voti, mettimi in lista. O no, ricostruiscici questa cosa. No, io diciamo scherzosamente così detto, ma non assolutamente. Io sto bene qui in Italia. Ma in Italia stai bene, no? Strasburgo. Bene qui, Strasburgo poi è un casino. Anche perché dov'è Strasburgo, tra l'altro? Ma sì. Ma no, dov'è Strasburgo? Strasburgo è a 2 ore da Lucerna, da dove ero io. Perciò. Sì, no, ma in quale paese si trova? Ma lo sa, ma queste sì, cose. Ma sì, basta che è un paese, l'importante che. No, lo saprai che però, paese è Strasburgo. Ma lo so, ma scusa, ma che mi avete preso per un bambino dell'asilo? Ma dai, ha ragione. No, ma insomma, ma dai, è Parenzo. È Parenzo che fa lo stronzo, dai. È Parenzo come al solito. Sì, pensa che sei ignorante, ma no, a parte che l'ignoranza in alcuni casi, in alcuni settori come la nostra e come la tua, Parenzo, l'ignoranza. No, ma Parenzo lo sa dove sta Giuliano Teatino? Ah, ecco, bravo, Giuliano Teatino, dove sta? Teatino, Giuliano dove sta? Teatino, sai dov'è? No, Giuliano Teatino. Sai dov'è, che provincia è, Parenzo? Lo no, sai tu? Io lo so, per esempio. Io lo so, aspetta, non lo dire, perché Antonio. Sei di quelle parti? Non tu? Lo dire, lo so io. Io non sono di quelle parti, la mia famiglia, una parte della mia famiglia abita da quelle sei parti. Di quelle parti lì, sarai. No, ma io lo so comunque, perché conosco la geografia. Giuliano Teatino. Sarà di dell'Abruzzo, è in provincia di Chieti, caro Parenzo. Ecco, bravo, dici. Siccome sei dici di quelle parti lì, ho immaginato che tu lo sapessi, appunto. Giuliano. Vabbè, comunque, caro Antonio, qui c'è da parlare di una cosa fondamentale. La tua proposta di legge, che sta facendo già il giro di non so cosa, presentata al Senato, tu l'avevi già proposta addirittura quando sei arrivato in Parlamento, la riproponi ancora una volta sulla legalizzazione della prostituzione. Buono. Per l'esattezza è disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione, giusto? Però. Operatore di assistenza sessuale. Operatore di assistenza sessuale. Come ti come operatore di assistenza sessuale. Come ti è venuta? La prima domanda, come ti è venuta questa idea? Ah, questa mi è venuta già dal 2006, e come sono stato eletto la prima volta, sì? Passando sulla Salaria a Roma, ne ho visto di cotte e di crude. Che ne hai visto? Che erano visto? Tutte donne nude lì, dicevo, qui il mare non c'è, che capre fanno quelli tutte nude lì? Con le tette da fuori, con i seni da fuori, insomma, tutta insomma, una cosa scandalosa. Sulla Salaria, si è arrivato. E dopo un'altra volta che ho passato lì veniva con me mia moglie, le ho detto: adesso chiudi gli occhi, perché qui ne vedrai delle belle. Vabbè, tua moglie, che poveraccia, non è che chiude gli occhi, magari li apriva perché era curiosa, o no? No, ma niente, le ho detto, perché qui purtroppo vedi come vivono qua, è una cosa incredibile. Sì. Allora mi è venuto subito l'idea di fare la proposta di legge, sì. Però dopo... non se l'è fidata nessuno nel 2006, però vabbè. No, non è perché sembra che era scandalo, sembra che chissà che. Dopo il 2008 l'ho riproposto un'altra volta. E ancora una volta non se l'è fidata nessuno. Nemmeno lì, adesso. Ecco. E adesso perché sei diventato famoso ne parlano tutti. Vedi che significa la notorietà? Allora, però, la parola operatore di assistenza sessuale, come ti è venuta in mente? Chi te l'ha suggerita? OAS. Ma no, ma diciamo, scusa, ci sono tanti. Tanti? Come si chiamava prima? Come si chiama? lo spazzino, come si chiama? Operatore ecologico. Adesso ci sono tutti i nomi un po'... Che anche una cosa, un nome non offensivo, mi sembra. Cioè, invece di puttana, tu dici, invece di puttana o di prostituta, è meglio operatore di assistenza. È una cosa più poetica. Una cosa più delicata, anche perché la donna è sempre una donna brava, delicata, insomma, ma c'è stanno fragile, insomma, fragile, bisogna rispettare la donna, allora così bisogna rispettarla anche col nome, non deve essere un nome volgare, deve essere un nome abbastanza delicato. Oas. Bellissimo. Mi sembra una cosa giusta. Malcolm, io se potessi, scusa, ma perché no? Io ho firmato il referendum per l'abrogazione della legge Merlin, quello della Lega. Ti ho visto in televisione. Cosa buona e giusta, mi sembra, no? È giusto. Anzi, una delle prime che mi ha elogiato per questa proposta di legge, che avevo già fatto il 2006. Abbiamo detto questo, sì. È stata la Lega. C'è qualcuno che appoggia la mia idea. Senti, più che altro per salvaguardare le donne. Le donne. Tu lo sai benissimo, non solo vengono sfruttate da grandi personaggi, ma addirittura qualcuno ci lascia pure la pelle. Cioè da chi? Da Magnaccia? Da chi vengono? Da Magnaccia. Quante volte è successo che delle donne... oltre dopo aver fatto il sesso l'hanno pure ammazzata, quello dipende, però cioè non è che ammazza. Allora cerchiamo di salvaguardare non solo nel PDL questa roba qui non è molto popolare, per esempio la Carfagna, come tu sai, bellissima donna, no Anto? Molto bella la Carfagna, no? Bella donna. No, la Carfagna ha fatto approvare quando era al governo eccetera una legge che punisce i clienti, certo, cioè le multe ai clienti eccetera eccetera, addirittura in alcuni casi è previsto anche il carcere i clienti, ma si possono punire i clienti delle prostitute, dai, su. Ma guarda, se gli si fa quello la prima, come ho già detto altre volte, la prima esportazione di valuta sono gli italiani che vanno fuori all'estero, perché se io vado in Svizzera è pieno di italiani che vanno a puttane, diciamolo tutto, ci vanno tutte magre targate italiane lì che stanno lì, non è che ci stanno, ci saranno pure in Svizzera, ma ci sono tutti quelli italiani che vanno lì, e quelli con chi pagano con euro, ma secondo... devono cambiare in franchi svizzeri, quello sicuro. Allora esportano la valuta, sì, ma invece stando in Italia oltre che si protegge le donne, è contento anche l'erario, perché in cassa l'erario. L'Agenzia delle Entrate è contento perché arriva soldi nuovi, soldi freschi, che magari non era nemmeno calcolato, e più si protegge uomini e donne, ecco. Si protegge uomini e donne. Senti, poi mi dici una cosa, ma in Svizzera come mai vedevi tutte quelle targhe italiane? Però prima c'è la pubblicità. Torniamo subito, 800 24 00 24. Antonio Razzi ci spiega la sua proposta di legge, ottima direi, sulla riapertura dei bordelli. Ve lo dico a voi due d'amico. Perché portava una maglietta. Fatevi cazzi vostri. Come non ce l'ha nessuno. Fatevi cazzi vostri. Perché procede molto bene, caro Antonio. L'asta, ormai siamo arrivati a oltre 2000 euro qui, grande successo, grande successo. Fra poco partiranno tutto, magliette, d'accordo, bonifici. No, come d'accordo? D'accordo! Euro al 40. Dai, zitto, d'accordo, mi voglio svenare. Questa volta come le diceva, se mi voglio svenare. E poi chiedeva mi voglio svenare questa volta, voglio mettere tutto sul piatto. 45.000 euro. Ma no, 45.000 euro. Bravo, bravo. Rilanciamo un attimo, Anto, rilanciamo questa asta, forza. Non so. Rilanciamola, grazie. Forza. Grazie. Rilanciamo la maglietta, ce ne sono pochi pezzi ancora, allora affrettatevi a comprare. Anche perché va in beneficenza. Bravo. La presidente Gianna Camplone di Pescara, l'associazione che ci sta sicuramente ascoltando, e sicuramente saranno felici tutti quelli che avrà, diciamo, la somma che si riuscirà a recuperare, e l'associazione sicuramente sarà felicissima. Allora, però qui siamo al disegno di legge sulla prostituzione, sulla legalizzazione, presentato da Razzi in data 7 marzo 2014. Allora, le OAS, cioè operatore di assistenza sessuale. Cioè assistenza sessuale, poi cosa vuol dire esattamente? Che uno assiste, cioè fa un'opera di bene le prostitute alla fine, no? Fa un'opera di bene se il... se il giovanotto, l'uomo va diciamo sì, sì, nervoso e dopo si rilassa, ecco. Si rilassa, tu dici. Cioè, un si modo rilassa, in Svizzera ci sono saune, bagni turchi, piscine, posti favolosi, ristorante, bar, va lì, è un'house di ritrovo, cioè una... appunto, appunto è un'operazione di assistenza sessuale, ecco. Capito, Parenzo? Cioè, la prostituzione nell'idea di Razzi, ma anche nella mia idea, è una grande opera, una grande operazione a fin di bene alla fine, no? Cioè, nel senso, fa del bene, sociale, o no? Anche sociale, un ruolo sociale è cioè una cosa che fa bene anche all'agenzia dell'entrata, allo Stato. Vabbè, italiano. Quello l'abbiamo detto, perché fa incassare dei soldi, eccetera. Però anche fisicamente fa bene. Cioè, voglio dire, se uno ha dei problemi sessuali, no? Che non riesce, magari è un po' bruttino, non riesce ad andare con le... Ma quella pure aiuta, no? Oppure i vecchi, no? Cioè, o no? Magari ci sono tanti uomini che hanno paura di affrontare una donna. Sì. E magari lì... troverà, si sfogherà, sì, visto che deve pagare. Beh, allora ci stanno delle iene pure là, però, non è che... Ma tu sei andato qualche volta quando eri giovane? Quando eri giovane? No. Lo possiamo dire, tanto tua moglie... Quando ero giovane non ci stavano. Ma come no? C'è peccato. Ah, in Svizzera non c'erano quando eri giovane? No, quando ero giovane io purtroppo non ci stavo. Ma come mai, secondo te? Ma però ce n'avevo abbastanza, te lo dico da amico. Che cosa ce n'avevo abbastanza? Ce n'avevo abbastanza perché... Ah, di donne, siccome, dici tu. Siccome ero, te lo dico da amico, siccome sì, ero un gran ballerino, sì, allora andando ballando, siccome alle Svizzere gli piaceva e chi ballavano, ecco, allora ne conquistava di ragazze... a centinaia, ecco. I segreti di Antonio Razzi: conquistavo centinaia di ragazze perché sapevo. Ma allora erano gli anni 60, caro, erano gli anni 60, erano gli anni belli. Gli anni belli. Oggi è un casino, sei sposato, c'hai la catena, la moglie. No, ma vedo che molti giovani sembra che non hanno interesse di conquistare una donna, allora si faceva la gara a conquistare una donna. Perché oggi invece? Oggi qui niente, non vedo che... quasi le donne deve conquistare l'uomo, cioè, perché le donne deve andare a caccia dell'uomo, cioè, dici che allora erano gli uomini che andavano a caccia delle donne. Troppi omosessuali, dici tu? Che ne so io. No, che ne so, per qual è il motivo? Perché io ho visto alcune volte che sono andato in discoteca e molte volte ballano donne e donne, addirittura, uomini e uomini. Cioè, gli uomini non corteggiano più le donne. Noi andavamo a ballare con le donne e basta, e non c'era altre soluzioni. Cioè, troppi uomini effeminati in giro. Diciamo. Chi lo sa? Sembra che stanno cambiando tutti quanti sono moderni oggi. Ma stanno cambiando le cose, non ci sono più gli uomini di una volta, dici tu. Sì, allora erano uomini veri che andavano proprio a caccia delle donne, delle belle donne. E dopo noi che eravamo lì in Svizzera, figurati, conquistarle era per noi anche un po' difficile perché eravamo stranieri. Sì, però sì, non c'aveva da una lira. Il savoir-faire dell'italianità... Com'è il? Savoir-faire. Sì, savoir-faire. Comunque va bene lo stesso. Tanto ci siamo... che ci sa fare, sì, ecco... Sì. L'italiano si è sempre distinto lì in Svizzera. Da questo punto di vista, certo. Ma secondo te perché è pieno di targhe italiane? Cioè, gli italiani vanno più a puttane rispetto agli altri? Sì, probabilmente. Ma sì. Tu, ti posso raccontare una piccola cosa? Come si dice? Una sciocchezza. Come si dice? Un aneddoto, sì, bravo. Che è successo? Sì. Dice lì, ho visto, era il mese di agosto. Sì. Due macchine. Sì. Targate. Non dico la targa, no, diciamola, ma era italiana. Italiana, sì, del nord. Tanto non te la ricordi la targa. Con i sci sopra, sì, perché sai che in Svizzera a Titlis, sopra Engelberg, sì, la montagna del Titlis. Si scia anche d'estate, sì, certo, i ghiacciai, sì, le cose. E questi hanno detto, dice, ma come? Io ho detto, dove è stato a sciare? Qui è vicino al lago di Lucerna, sì. Ma noi abbiamo detto alle nostre mogli che andavamo a sciare, ce ne siamo venuti qui al locale. Bella, dico. E i sci manca l'hanno smontata da sopra la macchina, sì, per dirti. Cioè, ecco perché dopo mi è venuta l'idea di fare questa proposta di legge, perché appunto sono soldi che si può recuperare. Certo, ma perché? Ma secondo te gli italiani, è pieno di italiani lì anche in Slovenia, oltre che in Svizzera, in Austria e tutto, dove ci sono, sì, insomma. Vanno in Austria, vanno in Germania. Ma secondo te perché gli italiani, diciamo la verità, sono più assatanati? In Olanda ci mancherebbe altro. Sono più assatanati. Ancora peggio. Sei stato qualche volta ad Amsterdam? No, io sono stato a Amsterdam. Ho passato, vedevo nelle vetrine che ci stavano donne che si esibivano in vetrina. Sì, ormai anche io non ci sono andato, no, altro. Quello vabbè, quello mai. Però scusa, dimmi una cosa, ma il motivo è che gli italiani in realtà sono più puttanieri, diciamola tutta, questo è il motivo. No, ci sarà forse. Si vede che gli piace più fare l'amore, meno male. No, altrimenti che facciamo? Facciamo al contrario, ci mancherebbe altro. Che andiamo con gli uomini, dici? È quello, meno male che ci sono quelle che sono veraci e che vanno ancora con donne. Certo, ma scusa, ma quella di Berlusconi allora non era prostituzione, quella là che lui pagava le donne, eccetera, quella di Berlusconi là ad Arcore. No, ma che c'entra quello? E che cos'era quella secondo te allora? Niente, cioè, era niente. Cioè, no, assolutamente non c'è mai stato niente, perché si faceva delle feste, e delle feste non è che si fa. Vabbè, la poi gente pensa subito a male, invece è un ritrovo tra amici. Qualcosina ci sarà stata. Male. No, tutto il ritrovo tra amici, ma come si fa? Ma scusa, ma se ci sta 20 o 30 persone, sì, che si mettono a fare tutti quanti a fare l'amore lì dentro, 30-40 persone. Beh, no, 30-40 no. Ma però no, quando no, qualcuno va via tra uomini e donne. Sì, io le ammucchiate ci sono pure, esistono. Non ha pensato a questo effettivamente. No, vedi, molte volte vengono parlate delle cose che non vere, capito? Assolutamente niente. In che senso vengono parlate? Non c'è mai stato nulla. Ma io non capisco perché Ghedini non l'ha contattata, senatore Razzi, per scrivere la difesa. No, però scusi, qualche cosa, qualche toccatina ci sarà stata anche lì, scusa. Qualche toccatina. No. Scusa, ma dare la mano, dare un bacetto di ciao come stai, scusa, ma mica quello è un... Vabbè, però ci sono un sacco di testimonianze che uno è grave, quello. Ci sono un sacco di testimonianze, di intercettazioni che uno ha passato la notte. Ma sono tutte puttanate, cavolate. Sì, cavolate, per carità. Sì, come vogliamo dire. Però arriviamo al punto fondamentale, che è la questione del profilattico, caro Antò. Perché qui siamo al top, perché tu prevedi tutto in questo disegno di legge, giusto? Prevedi tutte le possibilità. La mia proposta di legge è completa. Dalla A alla Z è perfetta. È completa, questo lo devo riconoscere, è completa. Allora, qui c'è la questione del profilattico e siamo qui, noi in diretta, qui sulla webcam con un profilattico tedesco che adesso apriremo. Eccolo qui, un bel profilattico. Sei a Milano? Sono a Milano, siamo, tu non essere assente. No, sono a Roma io. È molto leoso questo profilattico. Che mi avete preso? Un profilattico molto, molto... come si dice? Lubrificato. Luciani, non devi dire cazzate. Allora, qui abbiamo un profilattico, direi, molto resistente, caro Razzi. Vabbè, eccolo qua, possiamo farlo vedere. Un profilattico, perché Razzi prevede tutto, cari amici che siete all'ascolto, prevede tutte le cose che possono accadere. Allora, nell'esercizio dell'attività di OAS è obbligatorio l'uso del profilattico per qualsiasi tipo di prestazione. E questo è giusto, no? Sì. Pare, giusto o no? No, questo mi sembra importante. Giusti, lei ha mai usato i profilattici in vita sua, Razzi? No, mai usati in vita sua i profilattici? No, io perché lo devo adoperare? Ma che ne so, con sua moglie all'inizio, con le sue fidanzate una volta, mai usato? Beh, all'epoca non c'erano le malattie, forse, no? Si pigliavano. No, ma assolutamente. Quando era giovane, lei dice, ha avuto tutte queste donne, qualche volta l'avrà usato in vita sua sto preservativo? No, mai adoperato. Mai adoperato, cioè, lei non sa che cos'è, non ha mai aperto un preservativo. No. Però vabbè, d'accordo. Fare un po' d'attenzione. Cioè, non sa come si usa... Non sa come si usa questo profilattico. Vabbè, come non sa come si usa? Cosa non l'ha dire? Mai usato. Ma mica lo metterà sul dito, scusami, dai. Ma non sa come si usa, non l'ha mai usato in vita sua. Che ma ti devo dai, dire? Ma lo sa. Comunque, vabbè, ragazzi, questi profilattici sono. Ma avete preso un profilattico? È tremendo. C'è un profilattico. Ma adesso perché devi vedere? È lubrificatissimo. Non serve, no, non... ma serve. L'eventuale danneggiamento del profilattico durante una prestazione deve essere denunciata da parte del soggetto esercente l'attività di OAS. Sì. Giusto? Alle autorità sanitarie competenti entro il primo giorno feriale successivo all'evento, con indicazione delle generalità del cliente. Allora, qui, caro Giuseppe, hai visto tutto. Beh, ho visto la Z, ho letto, lei ci voleva molto. Ho letto tutto attentamente il disegno. Non è che ha fatto un'inchiesta la report qui, ha letto la cosa. Antonio, io voglio dirti una cosa. Allora, questo preservativo qua, quando si rompe, a parte che oggi mi sembra che è difficile che si rompa, è difficile che si rompa perché oggi tutte le case che lo fanno hanno rafforzato tutti i sistemi, è molto difficile che si rompa. Molto però difficile. Ci però può essere, ci può essere. Può succedere, benissimo. Allora, questo profilattico può succedere che si rompa. Cosa può succedere secondo te? Cioè, com'è la procedura? Cioè, c'è uno che stanno, sono due che stanno avendo un rapporto sessuale, giusto? C'è un cliente e una prostituta, giusto? Sì. Più o meno. Si rompe il l'attrezzo. L'attrezzo. E poi? E poi se si è rotto, che cosa può succedere? Può succedere che ci può o un bambino. bambino o una bambina può venire, che non si sa. Oppure può succedere che sì, se stanno malati si può ammalare, ecco. Cioè si possono prendere, attaccare delle malattie, dici tu, si no? Si possono attaccare delle malattie, allora uno per prevenzione sì, denuncia l'accaduto e magari. Ma chi denuncia? Lui o lei si controlla. All'ASL. Chi denuncia, dici tu, Antò? Beh, deve andare a farsi il controllo. Cioè tutte e due devono andare a farsi il controllo. Obbligatorio, dici tu, obbligatorio. Perché se uno di loro sono malati, sì, forse le malattie ad altri, sì, lui sì, magari lo porta a casa e lei magari lo porta ad altri uomini che va a fare le prestazioni con lei. Ah, a casa tu dici, perché spesso gli uomini vanno lì e... Spesso ci vanno gli uomini che sono sposati, non è, che, è molto difficile trovare i giovani, si trova oggi anche i giovani. Beh, a voglia, che come magari no? non hanno il coraggio di sì, affrontare una donna, gli manca la carica. Gli manca la carica, tu dici, gli manca la... Ci sono quelli un po', non tutti, ci mancherebbe, se c'è qualcuno così che magari si vergogna. Un po' timido, ecco. Un po' timido, ecco, la parola giusta. E che fa? È quello lì che fa? Non va mai niente. Dunque si rompe, allora, questo preservativo che ho io qua. Va all'operatore di assistenza sessuale. Giusto, che in questo caso fa quasi da, come si può dire, da... Ti fa da, quasi da mamma. Quasi da mamma, sì, si può... Beh, oddio, con le madri non è che uno ha un rapporto... No, lo so, ma però lo coccola come lo una coccola mamma. Lo coccola come una mamma, sì, certo. Specialmente se quella è la prima volta che va con una donna, figurati, quella donna ci si diverterà pure a vedere lui che è la prima volta che fa l'amore con lei. Ah, dici? Con una donna. Dici? Sicuramente. Dici, eh? Vabbè, comunque, sicuramente quello goffo, piglieranno pure per i fondelli, perché è la prima volta che magari si incontra con una donna. Per la donna magari forse sarà anche la soddisfazione di vedere che... Comunque ha previsto tutto, Razzi? Ha la soddisfazione di vedere cosa? Soddisfazione di vedere? Di vedere che diciamo che... Come noi diciamo che sverginare un uomo, ecco. Sì, lo svezzamento, ecco, te lo dico, dici. In parole alla paesana. Te lo dico d'amico. Te lo dico d'amico, c'è lo svezzamento, avrà piacere vedere lo svezzamento. Comunque, vabbè, questo... Tu hai notato che c'è anche per regolamentare lo scorrimento del traffico. Cioè, che vuol dire lo scorrimento del traffico, scusa? Crea anche un pericolo. Sì. La prostituzione, quella per strada, dici la prostituzione tu. Quella per strada crea anche un pericolo, perché io che vivo a Pescara, e tra Pescara, tra Montesilvano, Pescara, Francavilla al mare, tutto lungo il mare, e ce ne sono parecchie. Vabbè, quello, sì, allora l'uomo che fa? L'uomo che è l'uomo, come si dice. Come si dice. E già subito tende a guardare, ma dici, chi è quella lì che sta là? Lo vede... provocatorio e magari fallo gira la testa e poi la macchina avanti un po' ferma, bodabom, e l'incidente e succede l'incidente e si fa la fila. Dunque tu dici questo disegno di legge serve anche a evitare le cose, ma dopo anche a evitare che se vai a passeggio nel mare, nelle cose, famiglie che vanno a passeggio modo che vanno con i nipoti, con i figli, e non vedono quella roba che c'è. Vabbè, quello quello certo. Allora ci fermiamo un attimo, poi conclusione con Antonio Razzi. Mi sembra che abbiamo spiegato tutto di questo disegno di legge, anche ci sono gli spot radiofonici addirittura e televisivi possibili su questi bordelli dalle 23 alle 6, su questi centri massaggi, saune, come dice Razzi, e manifesti stradali sono vietati, però vietati. Onorevole Gazzi, allora come Gazzi? Eccoci qui, le speranze che vengano approvate questo disegno di legge, che venga approvato, Razzi, quante sono? Poche o tante? Mi dica la verità. Quindi nel suo partito, però, sono un po' bigotti. Visto che ma lei gliel'ha parlato a Berlusconi di questa cosa? No, due donne, siccome due donne, uno del PD e uno di Forza Italia, hanno fatto anche loro la proposta di legge, e visto che la Lega vuole fare un referendum, ma io sicuramente, se si fa il referendum, caro Giuseppe, sono sicuro che l'80% degli italiani voterà sì. Beh, io sono d'accordo, guarda, io adesso per Pescara questi giorni... Che fai? No, questi giorni che sono stato a Pescara, sì, mi sono anche un po' meravigliato che non solo uomini ma anche delle donne mi hanno fermato e mi hanno detto complimenti per la proposta di legge. Ebbene, donne, ma certo. Vuol dire che anche le donne, sì, tengono alla sicurezza delle altre donne. Ma perché non portare una di queste, come la chiami tu, operatrice di assistenza sessuale alle scuole per fare educazione sessuale oppure per... No? Nelle scuole. Ma una materia, guarda, in Svizzera c'è. Cioè, e facciamola pure in Italia, educazione sessuale. In Svizzera c'è la materia di insegnare la materia sessuale, cioè, portare delle prostitute allora, nella scuola, almeno gli dice, cioè ormai i bambini non dicono che il bambino arriva con la cicogna, non ci credono più, ma no, ha finito l'età della pietra dove magari dice vede la cicogna, porta il bambino, sta fresca. Se glielo dice un bambino oggi, quello là magari a me gli dice: oh, ma questo signore è cretino proprio. Beh, a quanti anni secondo te sanno che ormai per fare un bambino bisogna... Sicuramente. Insomma, la proposta c'è. C'è. La volontà. Adesso, proprio oggi sono andato a domandare per vedere di calendarizzarlo quanto prima. E che ti hanno detto? Mi hanno detto che purtroppo la commissione è una. La prima commissione che deve esaminare per primo questo è indaffarato su quanto riguarda... Commissione? Insomma, è sopra, sta lavorando molto, sta lavorando. C'è molti altri problemi da lavoro per quanto riguarda la legge elettorale, ma per quanto riguarda l'abolizione del Senato. Ma che ci frega a noi di queste cose? Meglio le prostitute che il Senato ha abolito, dai, cioè meglio. Ma sicuramente. Un attimo solo che c'è il traffico, torno subito e poi facciamo una telefonatina. La zanzara è quell'odioso insetto. Attento al DDT, sai? Perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo che. Ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist. La zanzara twist. Una volta un bacio e poi all'altro. Una botta nel braccio e poi all'altro. Antonio, stiamo provando a fare una cosa. Ti dovevo dire che Berlusconi ha fatto i complimenti per la maglietta. Sì? Ha anche fatto i complimenti alla radio per la raccolta che stiamo facendo per i disabili di lì a Pescara. Vodafone, servizio telefonico. Ma cosa ha detto della dell'iniziativa sulla maglietta? Scusa, Antonio. Ha detto grande... Perché gliel'ho mandato anche a lui. Gli hai mandato una maglietta a lui? Ci mancherebbe. Pensa se indossasse la maglietta Berlusconi. Questo è un bel Berlusconi che indossa. Complimenti per quello che stiamo facendo, sia Radio La Zanzara. Ma figurati. Con Cruciane e con Davide Parenzo. Dice: complimenti perché state facendo una cosa di beneficenza all'associazione di Gianna Camplone di Pescara. Portaci l'audio. Complimenti per quello che fate. Pronto? Sì. Vanessa? Vanessa? No. Sì, scusami. Come? Ciao, sono Giuseppe, ti disturbo? No, poveradino. Pronto? Chi è Vanessa? Ho detto non mi disturbi, dimmi. No, scusami Vanessa. Ma che voce ha sta Vanessa? Volevamo chiederti una cosa. Sai che c'è una proposta di legge, tu fai la prostituta di mestiere, no? Pronto? Sai, quando è così è difficile. È scappata. Si vede che ha trovato subito il cliente. Tu dici? Ciao tesoro, ciao tesoro. Sì, forse la devo prendere diversamente la cosa. Vabbè, Antonio, ti saluto, a presto, dai. Ti abbraccio. Ciao. Ciao, buona serata. Allora, andiamo ad Alessandria. Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera, come state? Bene, dimmi. Bene. Ascolta, sono chiamato per sponsorizzare con le mie parole la legalizzazione sia della canapa che della prostituzione. Dalla voce che hai, se uno è che con le canne gli dà un po' giù, diciamo la verità. Ma io ci lavoro più che altro. Cioè, in che senso, scusami? Lavoro per un giornale che si chiama Coltivare Canapa. Quindi c'è un giornale che si chiama Coltivare Canapa, caro Parenzo. Si chiama Top Secret il giornale. Come si chiama? Top Secret, dolci segreti. è un giornale che 30 anni che insegna a tutti gli europei come si coltiva questa pianta. Vabbè, quindi adesso, come dire, è un argomento che conosco. Comunque, senza parlare solo di canapa, io ho sempre sentito dire. Ma quante canne ti fai al giorno? Scusami. Ma me ne fumo una prima di dormire, di solito. Una prima di dormire? Secco, una, così. Sì. E la mattina? Mi rilasso dopo tutta la giornata che sono in giro con la macchina. E tutto qua, ecco, come bere un buon bicchiere di vino, ecco. Solo che il bicchiere di vino buono lo trovi al supermercato, per trovare invece dell'erba di buona qualità o te la produci o paghi tanti tanti soldi al mercato nero, quella buona, quella buona, quella buona, si parla di 10 euro al grammo come prezzo di mercato al momento attuale. La potremmo introdurre, scusami un attimo. Un'idea, Cruciani. Dopo le istituzionalizzare, vedere come funziona. Dopo le borse che noi mandiamo, potremmo mandare con l'ausilio del signore la borsa del mercato della canna, perché lui ha detto che oggi è a 10. Ha detto quella buona. Va aggiornata la borsa allora, della Fabrizio, lei che è un esperto del mestiere. Allora, se uno si deve fare una canna buona, diciamo, no? Io non me le faccio e non è che consiglio di farle. Però, se uno se la vuole fare, quanto deve spendere, lei che è un esperto, lì ad Alessandria? Ma diciamo che normalmente uno ci mette uno 0,5, no? Di mezzo grammo per farti un bello spinello. Sì. E se costa un euro al grammo, se costa 10 euro al grammo... No, ma ecco, 10 euro al grammo, per essere una cosa buona deve essere 10 euro al grammo? Più o meno, sì. Poi cioè, quelli che te la vendono a meno sono degli zanza. Cioè, ascolta, poi rischi di prendere la sola anche a 10 euro al grammo, attenzione. Bisogna non è sapere che sempre dove si... Un minimo di competenza, te ce la devi sempre avere. Beh, sì, anche in questo uno caso. Uno prende la sola quando è ragazzino e poi piano piano inizia a capire... Come dire, il prodotto che maneggia. Certo, certo. Allora... Guarda, senti, io voglio dire semplicemente una cosa. La canapa... Noi abbiamo la possibilità di fare quello che ho sempre sentito dire qua in Italia, cioè gli italiani quando sono col culo per terra, che rascano il fondo, sempre trovano le risorse per rialzarsi. No, siamo in questa situazione adesso, siamo col culo per terra, gente che straparla in Parlamento. Vabbè, allora? E allora noi legalizziamo uno e due, vedrai da una parte quanti soldi entrano, perché basta riconoscere uno stato di fatto, cioè tutti i giorni a puttane ci vanno migliaia e migliaia di persone, tutti i soldi evasi, tutti i giorni migliaia e migliaia di persone, differenti classi sociali, differenti età, si fumano come minimo uno spinello, sono tutti i soldi che non entrano nel circuito. Ma lo sai che Fabrizio è più ragionevole di tanti politici che ci sono in Parlamento, Parenzo? C'è Fabrizio d'Alessandria, che pure si fuma una canna ogni volta che va a letto la sera, prima di andare a letto, è un po' provato, più secondo me. Non è provato, adesso perché c'ha la voce così, no, un po' provato. Poi non mi pare provato. Si fa una... perché sto viaggiando tutto il giorno che sono in macchina. È uno che si fa un mazzo così, solo che è molto più lucido ed è molto più competente, ha molte palle in più, diciamo la verità, e anche molte più proposte, fa molte più proposte ragionevoli rispetto ai tre quarti dei parlamentari italiani. Diciamola tutta, caro Fabrizio. Rodolfo da Venezia, grazie. Rodolfo. Sì, pronto, Cruciani. Vai. Mi scusi, io ho perso un po' il filo del discorso, però si mi è fatto una canna pure tu. Parlando di preservativi, volevo chiederle, lei ha provato mai a metterselo in testa? Mamma mia, che bella battuta, Rodolfo, guarda, proprio una cosa inaspettata, una cosa così originale, una cosa così nuova, veramente non me lo sarei aspettato, guarda, veramente una bella battuta. Bravo. Applausi, dai, applausi a Rodolfo, dai. Mi fa piacere averla sorpresa. Applausi a questo coglione, dai, su. Grazie. Allora, Rodolfo? Basta, allora, solo questa. Mi ha fatto una domanda, se le piace la battuta, bene, se non le piace, pazienza, non importa. Ciao. Il concetto è chiaro. Ti abbraccio, ciao. Rosa, rosa, rosa, se va bene, rosa, no, ma poi invece sta buona. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. No. Caro Parenzo, ma non ti stupisce che i 5 Stelle... Non mi stupisce più nulla. No, ti stupisce dopo Razzi, che presenta una legge sulla legalizzazione della prostituzione? No, ma quello lo, anzi, no, ma quello è anche, lo considero ma, anche una cosa... Ma scusa, ma adesso la voglio dire tutta. Ma non è meglio uno così, con i suoi difetti, con le sue follie, col suo esibizionismo in alcuni casi, anzi, in molti casi col suo esibizionismo, ma un politico deve fare anche questo, eccetera. Ma è stato esaltato da Crozza, diciamo la verità, e da questi due cialtroni di Cruciani e Parenzo. E non ti pare uno che almeno lavora, cioè presenta un disegno adesso di legge, è lo stesso che presenta un disegno di legge al Senato molto ragionevole, facesse anche Renzo Piano, invece di fare le cose con come si chiama, con Renzi, di fare gli incontri con Renzi su come ristrutturare le scuole, di come cose di cui non si farà nulla, zero, invece di fare quegli uffici del Senato trasformare in una specie di, no, di cantiere, di, no, di atelier, ho visto delle immagini, sembra un atelier, no? Presentasse qualche disegno di legge, presentasse qualche proposta. E dai, adesso sono circondato, ci sono di un prato dalla mosca Zezé. Ronda, ronda, ronda, se va bene, ronda. Dario Verbania, dai, Dario Verbania. No, non ti stupisce, dicevo, Parenzo, che i 5 Stelle siano contro l'abolizione del Senato? Ecco, questa è una cosa che mi fa scandalo. Ma non erano quelli che volevano velocizzare le cose? Adesso dici sono a favore del bicameralismo perché è una garanzia. Ma che cosa significa? Non significa nulla. Non mi stupisce più nulla ormai. Signor Crimi, ho sentito oggi. Signor Vito Crimi, quello che cantava Gigo Robot questa mattina, vabbè, in una romana, radio romana, Radio Rock, molto bella. E lo stesso poi nel pomeriggio è andato a dire che il bicameralismo è la cosa giusta per l'Italia. Sentiamo. E poi il bicameralismo è comunque una garanzia in un paese in cui l'assetto istituzionale è fatto di pesi e contrappesi. Capito? Che bello. E che è un bel ambiente. E che cos'è? Che è un bel ambiente? Ambiente di maiali. Nicola da Chieti, Nicola da Chieti, ripeto. Eccomi, ripeto. Buonasera signor Da Chieti, Pugliani. Ripeto, da Chieti, da Chieti. Io chiamo proprio da Chieti perché sì, non le nascondo che sono un attimino e credo non essere solo in provincia e in Abruzzo un pochettino infastidito dal suo modo di trattare la nostra regione. Ma io non ho fatto anche nulla, lei è impazzito completamente. Cioè anche se non credo. Anche se lei ha dell'abruzzese, ma da quello che sentivo. Acquisito. Acquisito, ecco perciò. Però io credo che l'Abruzzo ogni tanto vorrebbe essere anche rappresentato da altre persone. Ma guarda, a me non me ne frega nulla di rappresentare né l'Abruzzo né la Campania, allora, né la Basilica. Lasci stare l'Abruzzo. Ma a chi lo dice? Lasci stare l'Abruzzo. Ma io lascio stare quello che voglio. Mica me lo deve dire lei chi devo lasciare stare o chi devo prendere, ma lo deve dire lei, scusi. No, questo io non è che lo dico. E io allora lasci stare l'Abruzzo, ma anche lascio stare. Cioè fa dell'Abruzzo una situazione un po' ma quando mai? Ma con me queste cose, siccome parla Razzi, allora Razzi non rappresenta l'Abruzzo, rappresenta se stesso. Beh, certo. Appunto, ma lei quando parla di Razzi invece lo fa per rappresentare l'Abruzzo, lo sostiene. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Ma chi... Lo dice apertamente. Comunque era soltanto una mia cosa da precisare. Basta. Da precisare, una sua cosa da precisare. C'è una battuta straordinaria di non leggerlo che ti segnalo. Dimmi. Performance del signor Buonanno, no? Dimmi che ha fatto. Dice no, quella che sventola non è il trota, è una spigola. Giuseppe buono, da Catania. Sì, non so se è lui però che ha retweetato una cosa, ecco, di un'altra. Vai a leggere bene, manco sai leggere. Giuseppe, no, da Catania, dai. C'entra. Ah no, questa è una battuta di Cristina Special. Bene, Giuseppe da Catania, dai. Su Cristina Special. Sei lentissimo, Giuseppe da Catania. Di chi dai parli? Di te, sei mi dica. Ma come mi dica? Ha chiamato lei, Cristo. Giuseppe, dai. Ho detto se potete proporre la Racomi come leader di Forza Italia. Ma noi non possiamo proporre nessuno come leader, nemmeno noi stessi come conduttori delle trasmissioni. L'avete messa avanti come... avete fatto tutta la campagna per cercare il fidanzato. Ma ancora non è finita, proseguiremo. Vabbè, ma cerchiamo giorni di portarla più in altre cose più importanti. Ma, no, ma scusi, ma lei... valida, sarebbe la Renzi delle donne. La messa Renzi lì delle donne, su, la Renzi delle un donne. Un anti-Santa che una persona valida, ma che Renzi deve andare avanti, fate quando... un'idea, vedete che ne pensa la gente, non so. Vabbè, Giuseppe, arrivederci. Dario da Verbania. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Salve. Vai. No, volevo solamente dire velocemente spezzare una lancia in favore della candidata alle elezioni europee che ha abbinato la politica al design, no? Siccome qui da noi, penso, non so in quali parti d'Italia, l'Italia è piena di debiti, gli italiani pure, e quindi chiamiamo i PUF. Siccome i PUF sono complementi d'arredo, ecco che si abbina il design e complimenti all'arredo. Bisogna vedere se. Non ho capito niente, scusi Dario. Allora, siamo partiti dal fatto che c'è un candidato, il candidato più votato dei 5 Stelle al prossimo Parlamento europeo ha accostato il design, siccome probabilmente sarà un'architetta di design, e la politica, allora cosa che non c'entra una mazza, diciamolo subito, non c'entra una mazza. Invece lei che dice? Non ho capito. Siccome l'Italia è piena di debiti, giusto? E tanti anche italiani. Sì, allora? E come si chiamano i debiti qui da noi? Si chiamano PUF. I puff sono complimenti d'arredo. Ah, i puff. In dialetto milanese, in dialetto lombardo. Allora? I puff sono complimenti d'arredo, giusto? Sì. Dunque? E quindi lei, come esperta di design, probabilmente sarà capace di barcamenarsi in mezzo ai puff. In mezzo ai puff. È una battuta. Fatto, sì, ho capito. Era una battuta. Vabbè. L'ultima cosa volevo dire velocemente, sì, in merito al proibizionismo, sia sulla droga sia sulle prostitute. Sì. Siccome vivemmo non so quanti anni fa il periodo del proibizionismo sull'alcol e dovrebbe servirci da scuola per capire che intorno al proibizionismo c'è malavita, racket e quant'altro, pertanto liberalizzare il tutto potrebbe almeno togliere la parte di racket di la legalizzazione, va bene, grazie a voi. Dai che ce la fai, tenace, stringi i denti e non mollare. Dai che ce la fai, se veramente vuoi. Lorenzo, adesso ti presento un personaggio. Ti presento un personaggio. Ma questa qua è un personaggio. Questo è un personaggio che si è presentato alla frontiera della Svizzera con il passaporto veneto. Questa persona che è in linea, che ti sto per presentare, si è presentato l'altro giorno, scusami se ho utilizzato la stessa parola, è andato alla frontiera della Svizzera, e invece di tirare fuori la carta d'identità, il passaporto italiano, ha tirato fuori il passaporto della Repubblica Veneta. Ma non esiste il passaporto. Non ridere. Non esiste. L'hanno fatto passare lo stesso, così racconta lui, l'hanno fatto passare, credo. Vorrebbe abbandonare la. Costui è il presidente del governo. Tu ridi su questa cosa qua, ma c'è un sacco di gente. Io sono diventato nel tempo, devo dirti la verità, Parenzo, io nel tempo sono diventato molto federalista, se non addirittura indipendentista. Vabbè, sono due cose diverse. Liberale e indipendentista, devo dirti la verità. Io personalmente sono diventato liberale, quello sono sempre stato, e indipendentista, perché mi sono rotto le balle di pagare per i parassiti. Mi sono rotto i coglioni, capito? Di pagare per i parassiti, per uno Stato che non esiste più e che tanto è irrecuperabile, perché ormai è talmente pieno di burocrazia, parassiti, gente che mangia. Ti piace solleticare la pancia? Ma non è la pancia, veneta, è così. È titillare. No, ma è ormai siamo irriformabili. L'Italia è irriformabile. L'Italia così com'è è irriformabile. Dovresti gettare nel lastrico migliaia e migliaia di famiglie per fare delle riforme serie, capito? Però a parte questo, a parte quindi questa mia tirata, delle piccole patrie, quindi, sì. A parte questa mia tirata, c'è con noi il presidente del governo veneto. Ma quale governo? Sì, buonasera. Albert Gardin. Persona. Beh, dai, Gardin, però adesso io sarò anche, avrò anche una simpatia nei vostri confronti. Ma però lei non è che vogliamo. Si può presentare come il presidente del governo veneto. Scusa. Non è colpa mia, sono stato eletto nel 2010 da un Parlamento che abbiamo costituito sulla base di elezioni democratiche fatte alla nostra portata. Ogni deputato è supportato da 20 deleghe. Sì. E questo sistema. Ma non lo sa nessuno, però, Gardin. Non lo fa nessuno, ma noi siamo occupati. Occupati? Dobbiamo farlo con i nostri mezzi. Dentro a fare carcere cosa? Si lavora diversamente che fuori. No, ma voglio dire, occupati a fare che? Ma niente. Siamo occupati dall'Italia, siamo occupati dalle nazioni europee. Sono 200 anni che la siete nazione occupati. Veneta è occupata. È occupata. E abbiamo preso coscienza in ritardo. Però adesso vogliamo presentare il conto della nostra realtà all'Europa. All'Europa, ma per questo siamo andati in Svizzera, non per fare una goliardata, ma per affrontare il problema veneto. Ma è vero che vi siete presentati con una specie di passaporto? Ma noi abbiamo un passaporto perché siamo istituzioni, benché piccole, ma, siamo istituzioni. Ma non esiste questo passaporto, allora non è riconosciuto da nessuno. Io qui. Cioè, Gardin, mi dispiace dirglielo, ma non è riconosciuto da nessuno questo passaporto. Lo riconosciamo noi. Non ci interessa, ma come si lo riconosciamo noi? Ma faccio quello io di Topolino. La Svizzera l'ha riconosciuto per due volte, siamo passati. Vabbè, ma si saranno scordati. Sono sforzati, si sono sforzati ad ignorarci, perché passiamo con bandiere, con le, vabbè, quello che vanno preso per matti, vanno preso per matti, su, vi siete passati non per questo. Credo proprio, non credo proprio. Però scusi, se lei vuole andare negli Stati Uniti, che è un paese... Adesso le spiego, due anni fa, no, l'anno scorso, sul Corriere del Ticino, il responsabile della polizia, il delegato, ha detto cosa succederà, mi ha detto io. Li arresteremo se non dimostreranno di avere un documento riconosciuto dalla Svizzera. Perdonami. Ecco, non solo non ci hanno arrestati, ma ci hanno detto va bene. Immagino ogni volta la scena, che passiamo io. Ci dicono va bene. Sì, va bene. Però scusi un attimo. Immagino già la scena di Gardin che adesso arriva. Adesso io so perché. Aspetta Gardin, aspetti un attimo, che non siamo... Io immagino la scena di Gardin e gli altri amici che con la bandiera del Leone di San Marco vanno all'aeroporto di Fiumicino. Fai la scena, stanno dai. Per fare il check-in al, come si dice lì, al passaggio dei passaporti degli americani. Sì. E noi vogliamo andare a New York. Questi dicono: "Excuse me? You have the passport?" "No, passaporto della Repubblica Veneta." "Excuse me, sir?" Dice: "No, passaporto Repubblica Veneta, Leone di San Marco. Abbiamo il passaporto, sono il presidente del governo." Questi qui, secondo te, americani che sono là a presidiare, cosa fanno? Ma non li fanno, neanche ad arrivare neanche al check. Cominciano a dire: "Republic of Veneta? It's a Republic of Veneta?" Controllano, controllano. Ma non controllano neanche niente. Vabbè, controlla, se uno si presenta lì con un documento, controlleranno. Ma no? Cosa che se uno gli dice la Repubblica Veneta, non è che conta, sanno già, sono americani, questi sono avanti, no? Allora. Please, basta un please, fanno un cenno con una mano così dall'alto, immediatamente arrivano 12 poliziotti e altre 12 persone vestite di bianco. Take this person, please. Prende. E la portano via. Cioè, Gardini, lei vuole provare ad arrivare in America con il passaporto della Repubblica Veneta o no? Ma lo faremo. Lo faremo, lei non lo fa perché la carcerano subito. Probabilmente lo porremo proprio all'America, non in America, ma qua nel Veneto, dove ci sono due basi americane. Due basi americane? Già, allora che fanno entrare nessuno, scusa. Che fate alle basi? Può essere che poniamo il problema, non puoi andare attraversare l'Atlantico. No, ma se lei con quel passaporto che ritiene valido volesse andare, a parte gli svizzeri che si saranno dimenticati, hanno visto le bandiere. Imponiamo all'attenzione del mondo questo passaporto. Ho capito, ma se lei oggi vuole andare in America con quel passaporto, non può. Non me ne frega niente, non me ne frega niente. Beh, il passaporto è uno strumento per affermare la nostra identità, la nostra diversità. Vabbè, ma uno si è fissato così. E la nostra storia. Noi siamo Repubblica Veneta, ci lasciano passare in Svizzera perché non perché abbiamo un gadget, non perché abbiamo un gadget, ma perché è scritto Repubblica Veneta, un nome che fa paura. Come? Scusi, vi lasciano passare? Ma vi prendono per matti alla frontiera, Gardin, vi prendono per matti alla frontiera, dicono vabbè ci sono questi qua con le bandiere, lasciamoli passare, tanto dicono... Non hanno chiamato le ambulanze. Ma non hanno chiamato le ambulanze perché non c'è bisogno in questo caso. Cioè, non c'è bisogno. Forse per voi, ma da noi non è il nostro caso. Scusi, ma quando ci sarà la Repubblica Veneta, per esempio? Vabbè, la moneta quale sarà? No, non è che quando ci sarà. La Repubblica Veneta è come un fiume carsico. Sì. È scomparsa 200 anni fa, ma non per questo è scomparsa. Vabbè, però non è, in questo momento non esiste. Riaffiora. E noi siamo l'espressione di questa riaffiorire. Ma per lei napolitano, che cos'è napolitano? Beh, il presidente di uno stato artificiale. Cioè no, ma lo riconosce come qualcuno, cioè lo riconosce come un... Ma noi dobbiamo riconoscere gli stati, stati, però è uno stato avverso, è uno stato nemico, è uno stato... Uno stato nemico, occupante. Sì, occupante. Ma la guerra si fa o no? Cioè, con le armi si può risolvere qualcosa o no, secondo me? Ma noi siamo gandhiani. Gandhiani, sì. Gandhi si sta rivoltando nella tomba. Con la ragione, con il diritto riusciamo a ottenere molto di più. E se non ci riuscite con la ragione e col diritto, che fate? Continuiamo la battaglia. Andate a fare una magnata, come diceva Luci. La libertà non è che ha una scadenza, la libertà si combatte tutti i giorni. Adesso, anche quando fossimo dentro la Repubblica Veneta, la libertà è costitutiva dell'uomo. Scusi, adesso faccio un po' il Luci, ma lei lo sa che lasciate l'Italia con i pezzi al culo, se ve ne andate? Ma l'Italia, purtroppo, tutti resteranno con i pezzi al culo, non l'Italia, gli italiani. Perché questo è uno stato artificiale, uno stato che è stato imposto, che ha rovinato gli italiani, che ha rovinato l'Italia. Scusi, la lingua, che lingua si parlerà quando ci sarà lei dice che già c'è, vabbè, diciamo quando ci sarà formalmente questo, questa Repubblica Veneta, che lingua si parla poi alla fine? L'italiano è bandito? Ma nel 1500 Pietro Bembo ha proposto di utilizzare il toscano come lingua franca, lo abbiamo sempre utilizzato, sì, utilizzando anche il veneziano. Toscano. Che vuol dire toscano? L'italiano? Lei non so se conosce Goldoni, Casanova, qualcosa, Bambo, eccetera, passavano tranquillamente da una lingua all'altra, no? Erano eccellenti scrittori di italiano, in italiano, pur essendo veneti. Vabbè, ma la lingua ufficiale quale sarà? Resterà l'italiano? Resterà l'italiano la lingua ufficiale o no? Ma l'italiano è il toscano, non esiste l'italiano. Vabbè, dai, toscano, italiano, sì, vabbè, ho capito. L'italiano comunque resterà, il toscano resterà toscano. Sì, ma è una lingua che accettiamo. E la moneta? E la moneta? Tutte le culture. Giovedì sera, se volete venire, a Spresiano, dove abbiamo la sede delle nostre istituzioni, sì, istituzioni discutiamo proprio del varo di una moneta. Addirittura. Abbiamo, beh, dai, c'è poco da ridere, cioè, uno Stato fa questo. Gardino, ma non è uno Stato! Abbiamo, ma tu lo dici. Abbiamo un monetarista francese, Philippe Simonot, che fa pressione perché noi... Ma se cominciate a stampare questa moneta, che succede poi? Non la dobbiamo stampare, ci sono anche delle monete virtuali. Cioè anche monete virtuali? Ma io non è che me ne intendo. Vabbè, per concludere, Gardina, è interessante comunque questa cosa. Le voglio chiedere una cosa, ma la Lega per voi è una traditrice degli ideali dell'indipendenza del Veneto, no? È un partito italiano, non ci interessa. È un partito italiano, non mi interessa. Che ha sfruttato la causa vena, che ha sfruttato il Leone di San Marco, ma è un partito italiano. Grazie, Gardin. La Lega, sì, ad esempio, nella regione del Veneto, dove ha una certa forza, non ha mai portato avanti un progetto in difesa dell'identità. Fa le sagre, fa cose di quel genere, ma non ha sviluppato una cultura veneta. È una forza politica dipendente da Milano e da Roma. Ciao, grazie. Ciao, Gardin. Prego, ciao, ciao. Ciao caro. Che vuoi fa? Gerardo, provincia di Bari. Gerardo dalle Puglie. Gerardo dalle Puglie, vai. Dal regno delle due Sicilie, dal regno dei Borboni, amici. Non esiste, non esiste, ragazzi, non esiste. Come non esiste? Allora, Gerardo. Dai, Gerardo, vai. Innanzitutto vorrei fare un saluto agli amici. No, ma non fare nessun saluto che dobbiamo chiudere, dai, forza, Gerardo. Ehi. Dimmi quello che devi dire, dai. E allora, dopo il saluto agli amici del Veneto, vi invito sempre qui a venire nelle Puglie a trascorrere le proprie vacanze. Dai, Gerard, ti devo lasciare, forza. Tindaro da Brescia, Tindaro. Sì, buonasera. Vai. Praticamente i cinesi si sono inventati i centri di massaggio. Sì. E in Cina hanno fatto i centri della masturbazione assistita. Cioè? Praticamente ci sono dei grandi saloni con dei lettini, sì, tu entri, sì, paghi e ci sono delle signorine con delle mascherine, sì, e dei guanti e fanno la masturbazione. Ma guarda che esiste pure in Italia, eh. No, ma lì è legalizzata però. Lì è legalizzata, in Italia, a Milano, io sono andato una volta in un paio di massaggiatori, di massaggerie, come si chiama, di centri massaggi cinesi, caro Parenzo, e alla fine vedi che non ti manca niente, alla fine ti masturbano, se no devi dire ovviamente se vuoi o non vuoi, non però ti alla manca fine niente. Ma sì, mi mancano tante cose, mi mancano, però questa l'ho provata, anche questa, il centro massaggio cinese a Milano mi mancava, a un certo punto l'ho provato pure questo. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ma Parenzo è più tenero, lei va a vivere in Italia, sta facendo la corte, io lo adoro. Siamo al manicomio qui, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ma che me ne frega a me, io conosco Giuseppe e Davide, è sufficiente. Radio 24, la passione si sente.